È proprio È clima della molto, situazione. sono persona quando sei nel tuo hub di E quello però anche. nel dungeon, perché letteralmente c'è la morte che ti aspetta e tu sei lì tranquillo Esatto. nel dungeon a chillare. Come vi dicevo, vi do tipo un'azione a testa, un'interaction a testa prima di iniziare. Siete 5 minuti prima di dove vi abbiamo lasciati. Eddie, vuoi fare il riassunto delle puntate precedenti? Raga, non serve, cioè. A Non so, chiedo. te non serve, Qualcuno fate. lo vuole fare? Nelle puntate precedenti. Nella sessione scorsa, dopo un time skip di 4 giorni in cui ognuno di noi ha fatto quello che ognuno di noi sa che ha fatto, me la cavo così, diciamo, delle guardie imperiali sono venute a prenderci a casa, letteralmente, dicendoci: guardate, potreste aver contratto una malattia contagiosa stando alla centrale, venite con noi. Chi più facilmente, chi meno facilmente, chi ha cercato di mentire spudoratamente insistendo nel chiudere la porta, siamo comunque stati presi e portati. E portati alla centrale. Dove scopriamo, cioè veniamo portati lì in quarantena con tutti gli altri della centrale. E scopriamo appunto che non. Cioè, sono tutti lì. Lidia è morta, esplosa. Yel trasformata, siamo lì che chiacchieriamo, cerchiamo di ottenere informazioni. Arriva il vescovo che cerca di benedirci e guess fucking what, esplode pure lui e adesso sta attaccando gente. Noi siamo 2 minuti prima di questa cosa qua. Diminuiscono di Esatto. volta. Sì, Quindi mi era stato promesso molto più tempo. il tempo è una valuta scarsa. Quindi andiamo in ordine alfabetico. Adone, mi spiace, hai già speso il tuo cazzo di tempo. Sì. No, non avevo Ok. niente da dire, non avevo niente da fare comunque. Benissimo. Erindor. Io no, non ho nulla, no. Gideon. Ah, niente, io. Ivan. Nine. Naya, sappiamo già che è occupato. Zan. Mi dispiace, Branish, tu ti aspettavi molto di Io più, sono ormai è fallito Groot. No, no, va benissimo. Va completamente. Cioè, benissimo. noi ti abbiamo fallito. Ma hai capito Tranquilli. cosa volevo dire? Zan Zan. No, c'era di più in questo layer, Madonna, Allora che la no, scheda di vabbè. Fateless. Cazzo, mi dispiace. E quindi vuoi fare qualcosa? Sto cercando di capire. Sì, mi sto calando una famiglia. Cosa? Va bene. Ma Sì, sì, perché i sì. drogati? Scala di uno. Sniffa il fumo che sta esplodendo sto tizio, sto fumo. No, no, prima, prima, prima. Cioè, E mi scalo una famiglia? ha detto questa frase qua. Una Hai qualcosa in famiglia. contrario? No, Naya. non so cosa significhi. È giusto così. È giusto così. Perché Naya è un cinnamoroll, non sa niente di questo mondo So perverso. neanch'io. Va bene, Esatto. ok. Tra l'altro apprezzo Rox con gli OnlyFans vibes, con la luce. L'hai detto te, io non mi sarei Oddio, mai oddio. permesso di dire una cosa del genere. Ok, cercherò di tornare un Anche essere umano. Non so se ci riesco. peggio. Eccoci. Abbiamo lasciato l'ultima sessione con il nostro simpatico vescovo che vi dà la benedizione a tutti e 100 i presenti ed esplode. La nube dell'esplosione di polvere metallica ingloba quattro dei soldati. E ora ho bisogno che ognuno di voi mi rolli un D10 per percezione. Non vi dico perché. Prego. Pronti. Inizia. È per compensare il fatto che non Yes! abbiamo E la siamo Yes! 2-1! No, no, in che senso? Rolla un D10 per davvero. Ah, Naya vede tutto. Come ben sapete, vabbè, gli 1 non li sto neanche a cagare. Quelli che hanno fatto 10 ritirano e sommano. No, vabbè, c'è qualcosa che non va con lo. Ma infatti, Rico, ma tu non che hai cazzo tirato? è sta roba? Rico, tu non hai tirato, hai fatto. Fai Naya 19 di percezione e dici: non è normale quello che è successo al vescovo. Allora, avete fatto 19, quanto avete di bonus alla. Vabbè, quella statistica lì? Ci guardo e io ho capito. 20. Io l'ho già Quella. messo. Sì, Uno. te hai fatto uno, poi Ah, anche io due a evitare. percepire. Sì, sì, okay. No, no, no, lo dicevo per gli altri. Sì. 20, quindi. Perché è 21 meno 1. E invece Ivan ha 20. Okay, ok, quindi avete fatto 21 e 20. Non voglio essere troppo cattivo, quindi vi dico che in alto ci sono delle scale che vanno al piano di sopra, idealmente. Non so se siete mai stati nella cattedrale, non credo. Forse Ivan sì, perché i morti di fame vengono qua a farsi curare. L'ho detto in modo cattivo, l'ho detto in modo cattivo. Fatevene una ragione. E questo per dire che forse Ivan sì. Naya no. E però sentite dei rumori provenire dalle scale, come tum tum tum. Ma quello che vi colpisce non è tanto il rumore a tutti voi, è il fatto che uno alla volta tutti i soldati spariscono, come se fossero stati teletrasportati. Rimangono solo questi quattro qua, e che erano avvolti dalla nube, e la creatura. La nube non si espande? Amo quando la musica fa... No, la nube si ferma per terra, formando un pulviscolo, come dicevamo, una coperta di sabbia sul pavimento, analoga a quella che c'era nel laboratorio alla centrale, se vi ricordate. Circolare, eccetera, eccetera. E... ok. Faccio agire prima la creatura, e poi andiamo in ordine. Prendo la sua bellissima scheda, bellissima scheda, perché ha una scheda, esatto, in caso non l'aveste capito. E quando i nemici hanno una scheda non è una buona cosa per voi, no. Questo vale in generale. E sentite un rumore meccanico provenire dal suo corpo, ho bisogno di segnare questo, e come degli ingranaggi che girano. Provo a descrivervi meglio la creatura, ora che si avvicina a voi, e si avvicina correndo. Correndo verso la porta, l'ingresso della recinzione. Ho degli sketches fatti da me, che non sono un artista, però ho fatto degli scarabocchi, diciamo. Questi sono degli studi di come... sono fatte le sue parti, si vedono di merda. Rimani un attimo, okay. Ok, questo è il braccio, si sono studi della testa, la testa dovrebbe essere poi alla fine questa qua, okay. E poi abbiamo il busto, che ha questa bellissima struttura qua, le braccia, eccetera. Ok, visto che vi ho fatto vedere sta roba qua, avrei finito, però voglio essere un pochino più preciso e dirvi che ha una specie di esoscheletro che imita la carne umana, la pelle umana. E ogni parte del corpo è composta da due blocchi che si possono aprire, ok? E vedete che in particolare quando termina un movimento, quando fa qualcosa, si aprono, esce fuori del fumo e poi si richiudono. Quindi riuscite a vedere lo scheletro all'interno. E quello è uno scheletro umano con una miriade di ingranaggi, di assi, di cose intorno. Il teschio ha le orbite oculari piene, così come... la cavità nasale, non mi ricordo se c'è un nome specifico. Gli zigomi sono un pochino più estroflessi di quello che sono in un corpo umano e hanno degli ingranaggi sotto che si muovono insieme alla mascella. I denti, cioè tutte le parti del corpo sono di questo metallo che non sapete identificare, ma ha un colore tra il bronzeo, oro, ottone, una cosa del genere, non è chiarissimo. E si muove molto velocemente. Posso domandarti se è lo stesso principio dell'alchimia con cui trasformi, visto che appunto la roba del trasformare in oro, no? Visto che comunque hai detto... È più o meno lo stesso livello, oppure... Allora, ti posso far fare un roll per capire se è alchimia, oppure una volta che sarà distrutto puoi fare un'analisi precisa, se sopravvivrete. Sì, sarà distrutto. Io vorrei fare entrambe le cose. Cioè, ok, roll un di 10. Ok. No, devi rollare un D10. Mi ha perso lo slash. Anche prima l'avevi fatto così? O poi l'avevi ritirato giusto? Boh, l'ho premuto su, quindi lasciamo. No, perché io in chat vedo un roll un D10, ma non vedo il tuo roll. Vabbè, hai fatto 8. Sì. Vuoi tenere questo 8 per la roba di prima o lo vuoi tenere per la cosa di adesso? No, non ero io che avevo fatto una. Come no? Perché no, tu hai scritto solo roll. Ma devi mettere la barretta lì. Sì. Ha capito. Comunque adesso ho fatto 8. quindi lo teniamo per la percezione o per l'altra cosa? Beh, ormai penso che la percezione sia andata a quel paese. Va bene, ci sta. Quindi hai fatto tipo un 11. Tu riesci a percepire la presenza di energia del piano fisico, si chiama, che è una forma di energia alchemica, diciamo. E non è una cosa oggettiva, nel senso, può significare o che c'è un'alchimia in atto, o che c'è una reazione che non c'entra niente con l'alchimia, ma che può essere usata per creare delle alchimie. C'è della presenza di questa forma di energia. Quindi o si sta preparando a fare un'alchimia, o è il risultato di un'alchimia, o ha un effetto che non c'entra niente, ma che con un po' di studio potresti usare per alimentare delle alchimie. Quindi okay. Tre casi non esattamente esplicativi. O meglio, se tra un po' spara un'alchimia, sai che era quello. Quella colata di vento che ho visto nella mappa. Ho visto anch'io. Zanzang che spara fiamme, va bene. Okay. E visto che Eddie è esploso, aspettiamo giusto 2 minuti durante i quali io mi finisco di segnare le mie cazzate, perché comunque è un personaggio, cioè è un mini boss, diciamo. Sei tornato? Cosa sono quegli effetti? Non io che cazzeggio con gli effetti, si stavo scoprendo cosa hanno aggiunto okay. A Goldwetti. Eddie, dacci un segno. Ci sono. Ok, perfetto. Raga, devo stare da cellulare, quindi sì, stasera non mi vedrete. Tranquillo, non ti preoccupare. La creatura si muove correndo verso la parete, verso la recinzione, e la graffia 2 volte, usando le dita, che in realtà non sono degli artigli, sono solo delle dita di metallo, ma li muove così velocemente che strappa la recinzione. E con soli 2 colpi ha fatto una X sulla recinzione e ora c'è un ingresso aperto e quindi può entrare. L'ingresso aperto è in corrispondenza di questo simpatico simbolino qua. Ma quindi le guardie sono cadute? Cioè quelle le guardie dietro sono morte. C'è stata una nube, quindi non avete visto come sono morte, però ora che sono a terra sono squartate, cioè gli mancano dei pezzi di corpo. In una frazione di secondo è successo tutto questo. Queste sono le guardie, correct? Sì, ce n'è una che è meno smembrata delle altre, diciamo, che è questa qua. E le altre 90 guardie quante erano sono sparite come se fossero state teletrasportate outside e rimanete voi dentro la recinzione. Se vi va bene vi descrivo gli NPC, così vi do un paio di minuti per scegliere cosa fare e poi andate nell'ordine che preferite. Va bene? Ok. Vado dall'alto in basso. Kael si alza in piedi, sputa la sigaretta che aveva in bocca e impugna la pistola, cercando un punto dove mettersi per riuscire a sparare. Al momento la recinzione è di intralcio, quindi semplicemente si sposta in basso con la pistola nella mano. Poi non vedo il suo nome, però. Ah, cavolo, davvero? Ora sì, vero? Sì. Yeah. Poi scendo. Bea, che come forse vi ricordate stava piangendo, continua a piangere, si nasconde dietro Rod e, usandolo come scudo umano, proprio stringendolo per la spalla, gli dice: fai qualcosa, ti prego, fai qualcosa, moriremo tutti. Rod, al che, con come si dice, la freddezza, la fermezza con cui l'avete conosciuto più o meno tutti ormai, dice: no, se chiudo gli occhi adesso rischio di morire, e va a nascondersi anche lui, cioè si sposta leggermente. Poi, in ordine abbiamo Batu è lo Shunar, ve lo ricordate? No, no, che non ve lo ricordate. Ok, lui si inginocchia per terra e inizia a ripetere un mantra. Adone, Zanzan e forse Naya potrebbero avere una percezione di quello che sta facendo. Vi interessa o ve ne battete il cazzo e vi do una descrizione molto Sì, mi interessa. Allora mi dovete rollare un D10. Sempre, quando vuoi. Grandissimo, Madonna, Adone! Dai, stai sprecando quelli inutili. Naya e Zanzan hanno l'idea che stia... Allora, Zanzan l'ha visto fare nel suo cazzo di popolo quando era bambino. Aveva visto gli sciamani della tribù evocare gli spiriti. Ed è una roba del genere. Naya aveva letto nei libri che anticamente le persone erano in grado di invocare le divinità dentro di sé. Batu sta facendo una roba del genere. E c'è... cioè voi riuscite a vedere una specie di aura alla Dragon Ball, ma gli altri non la vedono. E gli segnalo questa simpatica cosa che vi ho descritto, ma non c'è nient'altro da vedere o da sentire. Ok. Ed è fermo, immobile in quel punto lì. Gli altri che ho sono Ren, che è paralizzata come l'abbiamo lasciata l'altra volta, quindi mani unite davanti alla bocca e sta guardando un punto fisso davanti a sé. Devin e Carl si nascondono nell'angolo più lontano dall'ingresso, con Carl che ha la pistola e sta tremando e spara a vuoto. Cioè, lo faccio il roll, a meno che non faccia 10, spara a vuoto. Uno, spara in un punto completamente, spara nel soffitto, ha ucciso un piccione che parlava di sé per caso. E basta, cioè non fa nient'altro. Mentre Devin sta smadonnando nella sua lingua originale, mentre cerca di mettere insieme dei pezzi di metallo, dei meccanismi che si è portato dietro. E, ok, questo sono tutto quello che fanno gli NPC, tocca a voi. Prego. Io proverei a sbarrare la porta con le panche, tipo. Ok, conta che ha sbriciolato la recinzione con due... Sì. Ok, sbriciolata, ok, sì. Allora... Yeah, non no. Vi potete muovere come cazzo vi pare, eh? Cioè, ho visto che qualcuno... Oh. Saremmo in combat. Oh, erano 4, ci arrivavo. Sì, sì, se vuoi fare il turno... Quale dimensione, scusami? Se vuoi fare il turno, fai il turno, però... cioè, normalmente... No, no, no, mi rimetto al mio posto. Tra l'altro, devo risegnare i punti vita giusti. Ok. E... Vai, cioè... Se hai delle idee, Ivan, fai pure, eh. Però ti dico, sbarrare la recinzione non è proprio un... Non direi di no. Puoi tirargli un cartone. Io possiamo... se uso... Provo un attimo a dire la mia idea, magari, se qualcuno gli può piacere. Possiamo creare un ponte sopra quest'angolo e andare sopra la recinzione, tipo. Così non dobbiamo passare di lì. Lo e cercare... Urlando? Eh? Lo stai... Lo sto urlando, tipo, andiamo al piano di sopra, cerchiamo di smammarcela da qua. Ok. Queste recinzioni quanto sono alte, scusami? La recinzione è circa 3 metri. Ah, ok. Si fa un ponte con le panche e si passa così. Per paragone, però... la cattedrale è alta, cioè, fino a questo punto è 5 metri e poi ci dovrebbe essere un piano di sopra. Voi vedete il rosone gotico della cattedrale che è tagliato a metà, nel senso che c'è il piano di sopra a metà del rosone. Quindi sì, cioè, vuoi spendi il turno per fare questa cosa qua? No, per dirglielo, cioè... Ah, ok, quindi ancora meno. No, sì. Ditemi voi cosa volete fare. Beh, queste panche sono abbastanza scalabili, innanzitutto. Sono panche di legno come le vedereste... Da chiesa, cioè sono quelle da chiesa, sì. Cioè, perpendicolare su 3 sì. metri mi sembra abbastanza complesso. Sono lunghe 3 metri, tra l'altro, quindi cioè le metti a Minchia. 45 gradi arrivi circa a... Esatto, è quello che vorrei fare, tipo. Ok. Sì, sì, cioè ti dico, se vuoi farlo, okay. Puoi farlo, spendi il turno facendo questa cosa qua. Allora, perché ti viene un'ernia, però. Conta che avete 5 secondi per fare questa cosa qua, quindi non potete dialogare. Il vostro ok, turno, no? Lo faccio giusto per fare qualcosa. Ok, perfetto. Ok. Io riesco se gli tiro, cioè se in quell'area aumento la gravità, riesco a rallentarlo un po'. Puoi provarci. Ok. Mi dura tutte e due le azioni, devo rollare qualcosa? Sì, purtroppo, perché il rumore è tale da confonderti, quindi devi fare un roll di concentrazione, sarebbe un D10 più mente pulito. Ok. Sferica di raggio S, quindi raggio 3. Aspetta, di mente ho 2, vero? Sì. Ora ti faccio fare il turno, Adia. Ok. Raggio 3 vuol dire diametro 6. Se la matematica non è un'opinione. Così, no? Ok. Ok, dove la vuoi posizionare? Un po' più in giù. Fai... No, allora, un quadrato più in su e uno a sinistra. Ah, è vero, posso fare... Ok, centrata lì. Così sì, è... almeno non dà fastidio a noi, sì. Ok, perfetto. 11 va benissimo, riesci a concentrarti, non c'è problema. Spendi il mana, che è... 2. Dov'è? Oddio. Gideon. Eri a 19 su 19. Ti spende tutto il turno, sta cosa qua? Sì, sono due azioni. Ok. Davvero due azioni? Sì. Almeno nel no, link... No, azione base. Costo 2 e 2 di fatica. Ah, scusa, non ho visto la virgola. Sì. Sì, sì, sì. E quindi hai un'altra azione. Fai questa. Ah, niente, mi sposto un po' indietro. Ok. Adone? Allora, io Adone vorrei evocare il mio famiglio e provare a distrarre la creatura che ci abbiamo lì davanti. Okay. Ora, aspetta che controllo una cosa, perché non mi ricordo come lo devo... M-celle. Vediamo quanto c'ho di M. Ma di mana? Cioè, puoi spendere no, mana mente. Per... Cioè... M è mente. Hai due di mente. Ah, mente, ok. Ah, quindi entro due celle. Sì, proprio vicino. Mannaggia. Perché o mi avvicino, ma mi faccio un po' di cacca. Credo che perché, fa... scusami, se... Dimmi. Fa il turno dopo di te, quindi tu lo evochi e poi tocca a lui. Ah, beh, allora... allora, sai cosa? Sì, evoco il mio famiglia, il mio coniglietto, qua... Sì. Dammi un attimo che c'è. E okay. Poi sì, sì. Tanto perché poi tanto io mi levo dai coglioni. I will not apologize for this token. Ridimi dove? Qua? Ok, qua, ok. Sì, perfetto. E poverino, non mi dispiace per la gravità. Sì, oh, è vedete tipo questo saluto. Questo Bnui etereo fatto di etereo. E direi che non so se può attraversare le robe. In che senso? Cioè lo posso, perché c'è la barriera tecnicamente. Sì, no? Però qua l'ha distrutta, quindi può mettersi qua e fare da scudo umano. Ok, allora lo faccio. Sì, sì, fa allora, quello. Gravità va... solo... Bisogna vedere solo sta cosa qua. Dovrebbe dimezzare il dire? Movimento. Ok, quindi si sposta i due. Aspetta. Sì, sì, dimezzata. Sì, sì. E i danni da impatto che subiscono sono raddoppiati. Ok, quindi praticamente si muove di 2, perché in realtà avrebbe 4 di movimento. Vai a prendere la scheda, ti ho dato i poteri di modificare il coniglio. Puoi anche fargli fare un attacco, se vuoi. E hai ancora una scheda nel tuo turno. En passant. Sì, sì, certo. Non so, allora. Boh, il coniglio in verità non lo attacca. Cioè, no, lo deve distrarre. Sì, il coniglio lo attacca. Okay. Mi hai messo il coniglio su. No, dal token lo puoi modificare. Ah, ok. C'è qualcuno che si sta divertendo sì. Tantissimo. Ciao, Ika. No, no, ci sta, sì. Lo capisco. E se vai è su. È la vuota coniglio... la cosa per gli altri. Mi sa che tu lo vedi uguale me. Mi sa di sì. E... mi devi fare un roll, Eddie, su di 10 anche tu, perché il rumore è assordante, quindi devi fare un certo numero. Un di 10. Va bene. Hai fatto 7, perfetto. Perché hai più 2. Ok, perfetto. Ti segno l'esperienza. Ok, segnata grazie. Anche a Gideon. Oh, thank you. Mm-hmm. Sembra naturale il famiglio, vero? Sì. Sì. Ok, perfetto. Già naturale. E dimmi tu se vuoi muoverti, cosa vuoi fare con la seconda azione, cosa vuoi far fare al coniglio. Cioè, il coniglio allora, attacca, sì. Io in verità mi sposto e basta. Ora, non mi ricordo mai quanto c'ho di 4, movimento. Credo. Ah, ok. Ah, sì, movimento 4, perfetto. E allora, sì, io mi sposto là. Inizio a correre. Anzi, se corro posso spostarmi di più? Se corri non puoi fare il cast. Perché correre richiede un turno intero. Ah, ok. E allora basta, cosa avrei? Un'azione extra? Sì. Se puoi fare qualcosa, ma falla. Ma non devo sennò... fare niente. No, no, no. Faccio attaccare il coniglio. Ok, allora, il coniglio l'hai castato col mana, immagino. Sì. Non con la fatica. Ok, se lo casti col mana c'ha un livello in più. È un topo, vero? Sì, stavo... la scheda è quella. Sì, stavo guardando anch'io. Sì, sì, è un topo, l'ho tirato fuori pure io. E quindi è come se fosse al 4, a 8 di vita. Durerà un turno. Però ha 5 più 4, 9 di evasione. E boh, niente, l'attacco è roll on di 10 più 4. 4 8? Più 4, 8 lo missi. La creatura è velocissima. Ok. E basta. Ok, perfetto. Fine. Fine, ok. Prossimo. Domanda. Rod, perché si è spostato giù? Perché si sta allontanando dalla creatura e non aveva capito che stavate stappando un'uscita a nord. Ok, no, perché volevo prenderli e portarli su dove stanno andando gli altri. Prenderli? Quel twin. Vabbè, Rod è alto tipo... Metro e sono alti... Un metro e mezzo. Sì, Naya è 1,90, cioè non è... Ah, è vero, però... Devi smettere di pensare a Naya come un bambino, Rick. 20 centimetri. Con quella solo. Faccia, scusami. L'anima del bambino. Vabbè. È soltanto puro. Ecco, il rumore posso che fa il robot è tipo sta cosa qua. Come azione posso correre verso Rod, raccattare sia Rod che Bea e correre verso Zanzan, cioè quella zona lì. Allora, in teoria sì, in pratica dovresti spiegarglielo. E non credo che... Comunque Rod non sembrava interessato a questo genere di cose. Questo genere di cose? Sì, andarsene, cioè... Sì, vi dico, cercate di concentrarvi su voi stessi più che sugli altri personaggi. Ok, e niente, scappo, cioè corro verso gli altri. Ok, scappi, non... Allora, se corri puoi muoverti del doppio della tua velocità di movimento, che è 4x2, 8. Quindi potresti andare, l'area è tipo così. Altrimenti puoi muoverti di 4 e fare un'altra azione, come vuoi. Sì, mi muovo di 4 e faccio un'altra azione. Ok. Qualcosa. Per controllare il token, sì. Sì, è vero. Scusami, sto avendo un attimo dei problemi. Vedo anche la qualità del tuo video che sta scendendo drasticamente. Ecco il rumore, più rumore. No, mi sa che scappo, faccio direttamente lo sprint di 8 perché sennò non arrivo da nessuna parte. Boh, fine del turno di Naya. F. E chi vuole andare per come prossimo? Chi vuole? Rimangono Erin, Dora, Zanna e basta. Ah sì? Sì. Io ti voglio chiedere giusto una cosa, Shock Tendry, se funziona più o meno come l'area. Scusami, interrompo un attimo. No, non è vero, ho detto una stronzata. Posso cancellare quello che ho fatto? Erendor, può cancellare quello che ha fatto? Cos'è che ha fatto? Non lo so, però chiede se può. Posso tornare indietro e fare il mio turno? Vabbè. Vai, ho avuto una... Dici cosa e vuoi niente, fare. Mi spiace. Posso chiedere a Bea di prenderla e portarla via di peso? Ah, vuoi salvare Bea? Sì. Ok. Ho visto adesso che è in linea diretta del coso. Lei... Questo succede in una manciata di secondi. Dice, so badare a me stessa. Piangendo, però lo dice, capito? Ammazza quel coso, dice, un affare del genere. Piangendo, quindi non è che capisci. E allora Naya si mette qua. Ok. Seconda azione. Vedo che la piano di fuga sta andando veloce, benissimo. Lasciami in pace. Faccio un Expel Evil, porco Dio, se quella roba non è cattiva, bello, porco, mi piace Expel Evil. Non volevo farlo subito, va bene. Però è un di 10 per vedere se... Non volete, cosa dici? will roll an expelable. God fucking damn it. Quanto hai di mente? Uno? Sì. A pelo. Il rumore è così forte che riesci a malapena a concentrarti per evocare Expel Evil, cioè evocare un fulmine. A noi piacciono tanto i fulmini, vero? Grandissimo fan dei fulmini. Esatto. Il fulmine, immancabilmente, lo centra in pieno. E devo resistere con 5 più certi nu... Allora, no, è la tua roba. Vabbè, rollo io. Ok, molto alto il rumore di questa cosa. Sì. Ma poi in fondo il fulmine non è un danno da impatto, nel senso gli elettroni vengono influenzati dalla gravità attuale. Certo, è evitare, vero? Ah no, è resistere, quindi ho fatto meno del numero minimo per evitarlo. Entrati dai danni che sono 2 di 8 danni sacri. Yeah, baby. Fuck yeah. Di facchia dopo che hai rollato 2 di 8 più 6. 2 di 8 più 6. Oh damn. Arrivo. Più 6? Che cazzo è sta... Hai capito sto... Sotto il urlo. Porco Dio, vabbè. Oh, è andato solido. Bene. 15. No, mi sono dimenticata che sono 8 e non 10, quindi... Niente, il fulmine lo prende in pieno e vedete che... Rimane stordito per un secondo, le cose si aprono tutte, le come si dice, le parti dell'esoscheletro. Esce fuori una gran quantità di fumo. Datemi solo un secondo. D'accordo. Vuoi fare l'effetto del fumo che esce? No, per amor di Dio, sai cosa sono. No, ok, non lo può fare questo. Niente, prende 15 danni. E basta. E... Voi vedete la barra della vita? No. Allora rimediamo subito, perché secondo me è divertente vedere la barra della vita. No. non lo sappiamo. E voi cosa? Il quest log in Elden Ring? Siete pazzi, perché non volete vedere la barra della vita? Non si sa nella vita vera quanto uno avanti HP. Ma no, è una stima di quanto è vivo. Non siete coglioni. Lascia tutti la barra della vita, perché voi siete strani. In che perché senso? È troppo lunga in no, questo momento. Stiamo giocando tanto Monster Hunter ultimamente. Ho visto. Vabbè, fine del turno di Naya. Cioè ti devi muovere, vuoi muoverti qua? L'avevi detto? Sì. Benissimo, fine del turno di Naya. O Erindor o Zan. Mi sembrava stessi andando Erindor. Sì, io volevo chiedere, Shock Tendis funziona più o meno come l'azione di Gideon? Cioè che crea una zona dove fa danno da fulmini fuori dal me o è dal rispetto a me? Che non ho capito bene. C'è scritto dove è centrata? Infligge un danno da tua a tutti i bersagli entro 5 più 5 a tutti. È per quello volevo capire, perché prima di farmi saltare in aria magari... Allora, quando sali di livello puoi scegliere alcuni bersagli immuni. Cioè, quando sali di livello di quella... Quindi è rispetto a me, cioè io non è che... Sì. Quello che volevo chiedere non... Ah, ok, quindi tipo è letteralmente una... Ok. Clap those cheeks. Penso che non sia una situazione ideale. Questa... Dimmi tu. Mi piacerebbe. Sarei tentato. Tra l'altro, così beccheresti solo gli alleati, mi sa. che interessante. Drift for the sake of... Lo tiri e poi speciale. My job here is done. Cosa piangi? C'hai un'area enorme. Cioè la tua area è... Madonna! È questa. Madonna, Dio. Don't. Fa poco danno, però. Piacerebbe. È una scusettina. Si fa poco danno, è inutile. Ma perché era in joining the war on the side of the war. Cioè, fa poco danno, se fa un danno. Ciao, Eddie. Esatto. Prego. Cosa vuoi che sia il... Vabbè, dato che c'è ancora dell'Electron Dust, prendo le mie 4 monete tipo granata e inizio gliele lancio addosso come Vern ti ricordo. Allora, se mi devo muovere, dimmelo. Sì, sei a distanza 8. Tirare una moneta a 8 metri con precisione non è una cosa che sai fare. Arrivo a 5. Ok, è onesto, sì. Quindi, secondo mi me muovo. Se ti muovi qua va bene già. Ok. Ok, questa è un'azione. Lanciare la moneta, possiamo far finta che sia un'azione extra, ti rimane un'azione base. Beh, non è spammarci anche l'electron da sopra. Sì, è un'azione base. Ah, è tutto compreso. Sì, sì, te lo faccio fare. Allora, scendi di Electron Dust a 5, le monete scendono a 3. E... io volevo lanciarle tutte, onestamente, proprio per fare... dato che non mi sembra una situazione dove posso ragionare in maniera... Le lancia tutte, rolla un di 10. Fai Pocket Sand. Quanto, scusami? Un di 10. Ah beh, questo è solo per vedere qui, se... per vedere... no, 3. Secondo me 3 ti permette di fare un rollare un di 4 e un di 8, e tra un attimo capirai perché, e sarà molto... anzi, di rollare 4 di 4 e 4 di 8. Evviva! Inizia, let's go gambling! 4 di 4, hai detto? Sì. Ok, ora mi rolli 4 di 8. Ok, let's go gambling! Ah, il primo arriva qua. Qualcuno me li segna man mano che li metto? Faccio proprio un simboletto nel punto. No, no, con la penna. Ah. Faccio io. Ah, ok. Grazie. Il secondo lo prende, quindi lo segniamo lì. Il terzo lo lanci sui cadaveri dietro. Evviva! Segnarlo. L'ultimo lo lanci sul coniglietto. Mi spiace, coniglietto. No! Beh, tecnicamente non è... vabbè. Ti concedo anche che questa roba esplode alla fine del giro. Ok. Però sì, cioè dopo Zanzan sarebbe. Quindi tra pochissimo. Tanto vale che la rolliamo subito, vaffanculo. Vai, rolla i danni. Quanto? Two gold, quando esplodono, infliggono un di 8 ciascuno, mi pare. Ah, allora l'avevi già detto, 4 di 8? No, questa era per vedere la direzione in cui andavano, perché sono un pezzo di merda nella vita vera. Madonna. Nella vita vera. Quindi altri 4 di 8? Questa sì, è la vita vera. Esatto, Rox. Sei. Il primo qual era? Questo qua. Sì, è quello. Coniglietto prende 6 danni. Evviva! I'm helping! Il secondo era... non c'è modo di evitarla sta cosa, vero? No. Il primo è quello davanti al coniglietto, sì. Il secondo... non potevo ragionare in maniera razionale, c'è un eldritchorro, sì, che io gli lancio tutte le granate. No, poi ti c'è un botto di statistiche, quindi questa cosa qua è talmente grande che prende anche il mostro, quindi prende 6 danni il mostro. Me li segno, poi li calcolo tutti insieme. Prende anche il secondo, Mirol, che era quello in basso, giusto? Cioè... Sì, vabbè, il coniglietto ce n'è arrivato uno sul coniglietto, uno vicino al coniglietto nella zona destra. Per lui. Sì, il coniglietto è durato da oggi a oggi. Mi spiace. Però il cadavere scompare alla morte? Tecnicamente sì. Ok, arrivederci coniglietto, hai servito bene. Meno male. Allora, missa solo il terzo, che hai fatto uno, quindi ti è andato anche di culo. 13 e 4, 17 danni. Da... che elemento? Non è forza, cos'era? Impatto. Sì. Oh, impatto! Quindi... impatto! Sono raddoppiati, com'è che funziona? Fammi vedere... raddoppiati. Qualcuno ha detto sì, impatto? Raddoppiati. Pensate, 34 danni. Oddio! Vabbè, dai. Adone, il tuo coniglio ha comunque... è successo? È vivo. È un Eldritch Horror, scusami. Voi la vedete la barra della vita, vero? Gli rimane. Sì, la vediamo, okay. Bene, fine del turno di Arendor, avete rotto il cazzo. Ah no, tocca Zanzan, madonna. Scusami, sì. Io dopo voglio dare il 5 al video proprio preso dalla foga. Cambiare le folle. Prego, Zanzan gli spara, dai. Rolla un di 10 per colpire. Spara a Naya ora, così. Hai dei bonus? Bonus sarebbe mente. Mente o cose da, dalle tue passive. Uno di mente. È più uno. Sì, mi sa che al momento non c'è nient'altro. 7. No. Missi, sprechi un proiettile e guadagni esperienza arma. Eccellente. Guadagni due esperienza arma, vero? Sì, Madonna. Sì, Quindi... sa cosa non fare. E Family ti fa qualcosa? Missare. No, per questo no. Ah, ok, ho capito, ho letto. E niente, hai missato. Hai un'altra azione. Un'altra azione e il movimento, giusto? Sì. E l'azione bonus. È un'azione bonus o un'azione base? L'azione base può essere un'azione di movimento. Non è come D&D che il movimento è una roba extra. Buh, mi avvicino al tipo comunque. E... okay. Ta ta ta ta! Ti muovi vicino. Ok, hai il fatto finale, dai. Nel force field proprio. E... no, vabbè, dai, lo faccio prima. È cast overpower. Se lo facevi prima non sarebbe cambiato nulla. Figo. Overpower ti costa una moneta. Yes. Vero? Yes. Costo 1. Azione extra naturale, sì. No, è muscolo arcano. Costa 1 di fatica. Pardon. Vai a... sì. Hai overpower attivo con tutto quello che ne consegue. E guadagni un punto di magia naturale. Yes. E fine del tuo turno. Yes. Aveva agito prima il mostro degli NPC, vero? Sì. Ok, quello che sentite è che i rumori metallici che sentivate aumentano esponenzialmente. Cioè, il prima era forte, era assordante, ora è peggio. E la creatura si muove di due celle perché effettivamente la gravità lo rallenta. E in realtà no, ok. Avvicinandosi a Zanzan, ti graffia due volte. Ho dei bonus a sta cosa, sì. 12 e 7. 12 entra, il 7 no, giusto? Sì, sì. Sì. Ti fa solo 3 danni, ti graffia a malapena. Sì. Movimento, attacco. Movimento, attacco. Allora, su Erendor invece fa 11 e 20. Arriva qui, ok. Sì, arriva lì e ti attacca due volte, ti fa due attacchi a segno. Ti fa solo 7 danni però, ti smezza. Sì, conta che mediamente faceva di più. Fine del suo turno. Fammi vedere se ho delle altre robe strane. Ma non credo. Che livello sei, Ika? 3? Sei un bastardo fortunato. Ok, fine del suo turno. E tocca a Batu. Perché tocca agli NPC. Mi sa che Batu prende la kill. Batu estrae. No, kill stealer! No! Batu estrae. Last hitting per prendersi l'ex. Un arco magico. Cioè un arco fatto come le pistole a mana. E spara 3 proiettili. Missa tutto. Fammi leggere la scheda di Batu. Perché 5-2-1 sono bassini come risultati. Mi limito a dire. Questo è il karma perché voleva stilare la kill. 11, 8 e 7. Li missa tutti. Madonna, li missa tutti. Tanto a farsi il power up, poi arriva lì come un coglione. Però posso ritirarne... Aspetta un attimo. C'ha 50.000 abilità Batu, porco dio, è devastante. Perché un personaggio fatto bene. Ok, niente. Un altro... se fa 10 che può attaccare di nuovo, non se fa 1. Upsi! E fine. Quindi tocca agli altri. Carl spara. Se ora Carl fa 10, non credo più a niente. Colpisce Rod. 6, spara nel nulla. Devin sta continuando ad armeggiare con qualche strumento strano. Bea fa quello che si era ripromessa, cioè si mette indietro. Rod si mette dietro Bea perché è uno stronzo. Ren sta continuando a fissare il vuoto. Keia gli spara. continuando a chiedere. No, ma dai, dio porco. A sua discolpa hai fatto la glory kill aspetta adesso. A noi, mi spiace. La glory kill, non so chi aspetta, però il primo nella, nel turn order è Ivan. Dai, Ivan, butta giù quel. Ivan non ha assolutamente nulla di magico, quindi non può fare nulla. Devi tirargli un cazzotto, scusami. Hai ste mani. Hai una panchina in mano. Lo posso toccare? Esatto, hai una panchina in mano e proprio tipo Bud Spencer. Uno alla volta. Lo posso toccare a sto coso o toccarlo mi fa roba? Ottima domanda. Qualcuno l'ha già toccato? Non lo so, non mi ricordo. No. Il coniglio l'ha missato. Il coniglio l'ha missato. Quindi non conta se ci tocca lui, non ho capito. Perché in teoria ha toccato già due persone. Zan è stato graffiato dal coso e ha un taglio. Però penso quello derivi dal graffio e non dal fatto che l'ha toccato. Sì, esatto. Sì. Allora, vai. Prendo la panca... questa, certo, qua sopra dico già che c'è i boss a fare questa cosa qua. Sì, questa qua, no, non credo che pigli quella lì di panca. Sei qua, non la riesco a prendere. C'è una recinzione, è letteralmente sopra una panca in questo caso. Scusami, sì, prendi quella, scusami, ce n'è una in mano. Aspetta, non riesco a... tu sei quello blu, cazzo di... lo so, ero il 20 di merda, mi ha messo il... non riesco a... come si dice? Dimmi cosa vuoi fare. Spostare la mappa. Prendo la panca e gliela sponco addosso. Dammi due secondi che guardo se hai dei bonus a fare sto genere di robe. I think I do. Il bonus anch'io. Baretto. Allora, no, se lo fallisci puoi ritirare. Però di base hai un D10 più 2. Ok. Allora là pure un D10 più 2. I do that. Porco dio, come odio sto cazzo di sito di merda. Ne vogliamo non tirare un altro di D10? Non vedo cosa ho fatto. Ok, sì, ne tiro un altro. Grande. 16 più 2, 18, entra. E puoi rollare i danni. Ora tu mi direi giustamente, quant'è il danno di una panchina? Ottima domanda, per fortuna... No, di una... non di una panchina, di una panca... di... non so. Nella cattedrale. Ciliegio? Ciliegio, facciamo? Ciliegio. Mogano? Non so che legno c'è... Mahogany. Vicino a... Mahogany? Berlino. Mahogany? Dica a te che sei esperto di Germania per motivi che ora non stiamo a indagare. Che cosa... non ho sospetto questa cosa... esperto, no, di panche germaniche. Che cazzo volete? Che vento l'avete? Che vento l'avete? Magari allora... c'è pure lo zio in Argentina. No, non sono mica distratto. Ho scoperto una roba che non vi dico, però ora tu rolli 2 di 2 più 3. Tira cosa un D4 vuol dire di 2? Tira, testa o croce. Tira un D4 più 3 è uguale. È una moneta. Sì, esatto. È aritmeticamente morto, però mi tiri un D4. Ok. 5. E il coso viene sconfitto. Sono le 10, secondo me è durato il giusto sto fight. Due turni, due giri, va benissimo. No, mi dispiace, Piani. No. Non c'è problema. Perché ora andiamo nella parte... No, in realtà mi aspettavo uno di due evenienze. Questa è una via di mezzo che apprezzo. Non mi costringe a fare una cosa cattiva. Posso dire com'è successo? L'ho proprio boccato sopra con la panca. Vuoi fare la cosa di Matthew Mercer? A me fa schifo, però te la faccio fare perché ti piace, vai. No. Come vorresti farla questa cosa? Voglio soltanto dire che l'ho fatto come acchiappa la talpa. Ah, proprio? Punk! Madonna, che schifo! E allora te lo descrivo con perizia di dettagli. Per la furia, per l'animazione, per la cosa, gli sbatti la panchina in testa così forte che la testa si stacca dal corpo, le varie parti meccaniche che lo coprivano si aprono tutte e mentre il cranio rotola per terra lui rimane in ginocchio, immobile, con tutte le parti aperte e uno sbuffo di fumo bianco inebria l'aria. La situazione si calma. Infatti, che bello. La situazione si calma, guadagnate tutti. Vogliamo essere gentili e amorevoli, vi do 5 punti esperienza a tutti, come nevicasse. Yay. Ma sì, abbiamo fatto la kill in modo classy con la panchina. Esatto. Allora, io vi segno lentamente l'esperienza e voi mi dite cosa volete fare. La lunga di fumo, da dov'è che arriva? Mi pare che... io penso che... Come sono messo? Riusciamo a parlare una alla volta, una alla porca puttana. Se no non, non usciamo più. La nube di fumo arriva dal cadavere? Sì. E che raggio ha? E no, si disperde subito, cioè proprio fa una fumata, una nebbia e poi rimane nella stanza, esattamente come se fosse acqua in ebollizione. Ok. Stavo proprio per chiedere tipo vapore. Sì. Sì, che bello, ebollicino. Ok. Adone, che è lì vicino... vorrebbe provare a toccarlo con la bacchetta, cioè tiro fuori la bacchetta e provo a toccare. Ok, ora andiamo in ordine, quindi Adone parte. Oltre a un rumore meccanico che ti aspetteresti, cioè un clang, non c'è nessuna reazione visibile. Percepisco calore? Sì, nella misura in cui era caldo prima. Sì, cioè non è bollente il ferro. Non lo toccherei, però boh, è caldo. Ok, un po'. Conta che gli ingranaggi prima giravano in modo tale da fare un rumore assordante, quindi sono scaldati per quello e si stanno lentamente fermando, però continuano a girare, certo. Continuano a fare un po' di rumore, appunto come un meccanismo che rallenta. Adone vorrebbe provare a capire cos'è quella cosa lì, però prima faccio andare agli altri. Ok. In ordine c'ho Rick, Erindor. Io come sono messo? Perché comunque mi ha fatto mi ha tirato una bella sberla. Sì, stai sanguinando, quindi... però in modo mortale. Dato che comunque parlavamo di device che ricostruivano tutti, ce n'è uno anche in chiesa oppure sì. No? Io vorrei andare a mettere sto mana. Ok, come avete intuito, questa recinzione è stata completamente distrutta. Le apparecchiature sono dall'altro lato della chiesa, per capirci. Bene, io proprio inizio a muovermi. Io do una mano a Erindor, cioè ovviamente rilascio la gravità, do una mano a Erindor, magari ce lo metto anche io il mana penny, visto che abbiamo fatto la combo, dai. Ok, voi vi allontanate. Siete compagni d'armi. Vi dovrei dire che nella concitazione del momento non ci avevate fatto caso, ma tutte le uscite, tutte le finestre della chiesa sono sbarrate di ferro, cioè come se dei pilastri di ferro, forse delle mani sembrano, stiano coprendo ogni possibile uscita. A parte appunto le scale al piano di sopra e... no, niente, non ci sono altre uscite. Per fortuna l'apparecchiatura è lì dove potete raggiungerla. Toglietevi una moneta e recupero tutta la vita d'Erindor. Evviva! Okay. Quindi mi offri tu? Sì, ne ho 29. Oh. Ivan? Gentilissimo. È uno delle tribù del sud. È gentile. Ah, mi sono ricordata che io ho un XP extra per test. Ok, te lo segno. Niente, questo piano c'è qualcos'altro? Possiamo procedere verso il piano di sopra? Sì. Cioè, devo fare un... No, cioè, nel senso, andare... Vuoi andare di tua iniziativa oppure lo stai dicendo? Perché noi comunque, io e Gideon, siamo un po' fuori da origliate in questo momento. Ma dov'è questa scala? La scala è... devi fare il giro della recinzione ed è qua. Cioè, un pochino più in su di qua, fuori dalla mappa, immagino. Ah, ok. Ora la mappa non serve più. Allora questo... li aspettiamo, I guess. Cioè, io... Ok. Comunque potete parlare, cioè interagire tra di voi. Quello che vi volevo chiedere è di non fare, cioè non parlare tutti insieme. Però se volete interagire potete farlo, ci sono anche gli NPC. Naya? Naya va a curare Zanzan. perché ha visto che, cioè, gli apriva la faccia con le unghie. Sì, gli ha fatto un graffio. Te lo faccio fare senza robe aggiuntive con la passiva. Bite Hands. Sì, con quella cosa lì. Quanto cura? Ok. Livello da healer, quindi gli recuperi 3. No, gli recuperi 2, quindi gli recuperi tutto tranne 1. Perfetto. E volevo vedere se riesco a captare qualche magia o maledizione dalle ossa, dallo scheletro. Lo scheletro non è in alcun modo maledetto. Ok. C'è qualcosa che riesco a sentire di arcano in quella... Vuoi rollare un di 10? Vai. Posso farlo anche io? Sì, sì, sì. Vuoi farlo anche tu, Rick? Tu volevi vedere la roba di alchimia? Però adesso sono leggermente immediato. Va bene. Quando tu... no. Almeno lo fai adesso e non li dico tutti e tre. Ah, ok. Okay. Allora, voi due avete rollato arcano. E Erindor in realtà credo abbia rollato tecnologia. Quindi okay. Ho fatto 4. Ho un più 2. Sì. Sì. Voi... Adon è l'unico che ha fatto un roll decente. Che ha io fatto 9. Ok. E tu hai fatto 13, però. 13 è super, come avrai intuito. Non credi che sia possibile... Vabbè. Se tu avessi visto questa cosa all'improvviso, avresti potuto teorizzare che fosse un automa molto raffinato. Cioè, costruito in fabbrica. Avendo visto un essere umano che si trasformava in questo, non è una spiegazione logica per quello che è successo. Nessuna magia che conosce è in grado di fare una roba del genere. Quindi, e tra l'altro non c'è residuo magico. L'alchimia rilascia una sorta di residuo. La stregoneria rilascia una forma di residuo. Tutte le magie hanno un modo per identificarle se sei un esperto del settore. Tu non vedi niente di tutto questo. Naya, più o meno la stessa cosa, con meno informazioni, immagina. Però potete conversare tra di voi e quindi chiarire il punto. Fatto sta che per quello io che ne sapete, questa cosa non è magica. Cioè, ok. Intanto che ci pensate, Zanzan? Vabbè, intanto ringrazia Naya con un pattone sulla schiena, tipo... Naya, fa così. Siete coetanei. Due passi in avanti, vola dall'altro lato della stanza. E... ma direi che vado... c'è l'uscita più vicina qual è? Allora, c'è l'uscita principale, è il portone della cattedrale, che è coperto da questi pilastri di ferro. I pilastri di ferro, yes, non avete, yes. Cioè, è successo probabilmente mid-fight, perché non ci avete fatto caso. Il roll di prima era per questo. Vuoi andare a investigare sull'uscita comunque. Ok. Te la faccio breve. La porta in sé è una porta di legno normale. Le cose di ferro non sembrano collegate. Non ti faccio tirare per sta cazzata qua. Le cose di ferro non sono collegate a questa cosa qui e non sembrano parte della struttura della chiesa. Cioè è una roba che che ci è venuta fuori dopo. È ferro puro. Cioè tu probabilmente lo potresti spaccare, ma ci metteresti un sacco di tempo. Ok, quindi niente interessante da questo lato. Sì, le altre uscite sono le finestre, che sono delle vetrate, anche queste coperte da assi di ferro. L'unica cosa che è rimasta aperta è l'uscita per le scale. L'uscita per le scale che va al piano di sopra. Sì, tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ci sono 3 cadaveri e un tizio morente. Sì. Oh. Ah, è ancora morente? Avevo capito che fosse solo morto ma smembrato. No, no, 3 sono smembrati e il quarto è... boh, messo male. Oh no. Non c'era tipo piovuto una moneta lì? Pensi, esploso. No, è andata in cima con i cadaveri già smembrati, purtroppo. Purtroppo? Purtroppo per l'idea di Erindor di risolvere il problema eliminandolo alla radice. E... se nessuno fa niente, sto punto andare a vedere anche i cadaveri. Se okay. C'hanno qualcosa di interessante per Zanzan. Definisci se interessante per Zanzan, ma prova a descriverteli genericamente. Vai. con questa musica. Sì, è la musica adatta, sono dell'idea. Sono corpi smembrati, ne hai visti alcuni in vita tua. Sì. Oltre al sangue, che ormai si è già un pochino rappreso, quindi vedi sotto, proprio dei puntini delle ossa sono metallizzati. Ma proprio dei puntini piccoli, capito? Devi proprio guardarli da vicino per vederlo. Intorno a loro c'è un cerchio di quasi sabbia, sembra, però non capisci bene cosa sia. E le ferite sono compatibili appunto con i denti e gli artigli della creatura che avete distrutto. Ok. Quello morente invece ha solo un grosso taglio che gli passa da parte a parte il corpo, cioè... Però non è così in profondità da averlo ucciso. È solo quanto a terra. C'è? Quanto è moente? Quanto? Quanto è moente? Potete salvarlo se lo fate in fretta. Ok. Avete un fischio ai sapientoni. Aio! Aio! Oi! C'è della roba da vedere qua. Definisci roba. Rod accorre. Ciao. Ciao. Bea è sempre in un angolo a piangere dentro la recinzione. Ren non risponde alle cose. Batu ha richiamato quella cosa che aveva evocato. Credo che si sia nascosto per la vergogna. Se è mancato. Poverino, lascialo in pace. Parte della sua cultura. Ok. E... Vabbè, ce l'avevo anche con Naya e Adone. Gli no, altri. Infatti, cioè, ah. Sì. Sì. E... Io ti chiedo solo una cosa, se appunto Zanzan ci chiama, io vado da lui, però prima vorrei sapere, c'è un pezzo dello scheletro che riuscirei a staccare? Sì, dove vuoi, divertiti. Cioè proprio adesso che è fermo è un automa e avendogli staccato la testa, tutti i meccanismi che erano attaccati alla testa sono, come si dice? Esposti. Come un professore Luz. Che non è di ruolo, quindi... Precari. No. Vabbè, io in verità posso staccare un dito, ce la faccio o è troppo? Ok, le dita sono attaccate bene, io intendevo dire tipo gli ingranaggi del... Allora prendo, stacco dei due pezzi e me li porto con me, però li tocco con un fazzolettino. Sì, sì, smarcali nell'inventario. Ok. Mentre fai sta cosa qua, noti che gli ingranaggi sono estremamente puliti. Ok. Cioè sono proprio come se fossero appena usciti da un da una forgia più che da un laboratorio, perché proprio non c'è nessuna traccia di polvere o di altre cose sopra. Sì, ok, perfetto. Tra l'altro, i tre cadaveri hanno tutti la maschera, hanno tutti l'equipaggiamento dell'esercito. Io sta cosa l'ho detta. Così, en passant. Noi accorre ad aiutare questa persona morente, va bene, piani. Sì, anche Adone corre, lui, anche lui corre, vi raggiunge. Ok, siete tutti intorno a costui, cercate di guarirlo usando le vostre competenze magiche. Carl, nel caso... Io ero in... Aspetta, scusa, io e Rindor siamo ancora a sistemarlo, sì, là no, in fondo. Non era ferito gravemente, quindi ci vuole proprio un minutino. È già vabbè, guarito. Stiamo tornando. Ok, allora. Sì, sì, sì. Siete, cioè, al di là delle cose, quindi non siete in comune. Ok. Siete, state un pochino lì. Ok. E... Mi rimane Ivan, però vi volevo dire, prima di chiedere a Ivan, che Carl, vi ricordate Carl? Quando il mostro è morto, è ritornato ad essere l'uomo più convinto del mondo. Cioè, ora è tutto impettito, serissimo, mette la pistola nella fondina. Anche oggi abbiamo portato a casa la pellaccia. Devin cosa fa? Sì, cosa sta facendo Devin, mio fail girl boss boy failure? Era al 70%, era al 70% di costruire la roba, vedendo che il coso è morto dice, ah, e lo tira via. Your way. Stavo giocando con i geomaghi in realtà. La railgun si fa così, tra l'altro. Boy failure. Yel si è seduta su un'altra panca, ricominciando l'azione che stava facendo prima, ovvero fumare. Tra l'altro, tanto non è più fatta di carne. En passant, abbiamo determinato che fumano oppio, per quelli che erano interessati. Bello, a esclusione. Leggero. Sì, sì, sì. No, vabbè, una variante anche... un po' light, diciamo, vabbè, però è ovvio. Ormai lei che cosa se ne fa, cioè, che può fumarsi anche metanfetamina. Cioè... Ah, sì, esatto. Quello di motore, così. Esatto. Questa è benzina. E ora la sniffo. Esatto. Ivan? Boh. Da un'occhiata al piano di sopra. Ok. Non so cosa fare intanto. Cioè noi siamo qui, tu te ne vai, va bene. No, do un'occhiata se succede qualcosa al piano di sopra. Ok. Ivan vuole portare a casa la partita. Benissimo. Quanto vicino al piano di sopra, vedi di sfuggita qualcuno che sale le scale. Allora, vado... Mentre sto salendo al piano di sopra, c'è qualcuno davanti a me che sta salendo le scale? Sì. Gli urlo. Ehi. Ehi. Oh. Chiunque egli sia, o ella, non ti risponde. Ma sale le scale. Corri? Che boh, lo inseguo, I guess. Senza avvisare gli altri? No... I don't know, raga. Not pay attention to the music. I have no control. C'ho mal di testa, quindi non l'ho mutata la musica. Ok. Ma devi ragionare dietro questa persona. Corri dietro questa persona. No, snico. Ok. E devi fare sneaking un roll. Behind the guy. Ok. È nascondersi un di 10 più 2. Mazza. 8. Provi a muoverti silenziosamente salendo le scale. E arrivati in prossimità della fine della seconda scalinata, sono due rampe di scale, riesci a vedere che c'è un corridoio. Ok, un corridoio dritto che occupa l'intero secondo piano. Da qua sembra che non ci sia un terzo piano, cioè sembra che sia l'ultimo, il tetto. E in effetti c'è un uomo che ti sta dando le spalle e sta camminando lentamente in direzione opposta. Chi è? Non lo sai, un po' perché è di schiena, e i suoi vestiti sono bruni. Datemi un attimo. Provo a descriverteli. Guarda, ti spara flashato. Sì, infatti. Sì, sì. Che è bianca la scheda. È luce esatto. Divina. Sono di un... colore scuro marrone, ha dei lunghi pantaloni grigi, lunghi nel senso che ha i risvolti in fondo perché arriverebbero sotto, scarpe eleganti, non so se sei il tipo da rendertene conto, se Ivan è il tipo, però sono scarpe da soldi e di una certa importanza, e niente, figura magra, supera il 1,80 m, non ti dice niente. Non so. Mi ricorda qualcuno? Cioè... No, non no. Particolarmente. Piano di sopra ci sono porte. Sì. C'è soltanto un corridoio. Il corridoio da entrambi i lati ha ogni 3-4 metri, ogni 5-6 metri, diciamo, delle porte da entrambi i lati che si guardano, diciamo. Da qui Che vado di sotto. Vado di sotto a dire agli altri cosa c'è al piano di sopra. Ok. Gli dico del tizio. Ok, ci metti un paio di minuti a fare tutto. Vorrei che mi diceste cosa volete fare col tizio morente a terra. Poi a un certo punto introduciamo Ivan. Sei mutata, Rox. Grazie. Capire come sta, togliere la maschera, vedere se respira, curare ovviamente, cioè... Ok, togli la maschera. Se ci sono qualche maledizioni o comunque se capto anche sta merda. Maledizioni no, non pervenute, quindi non ti faccio rollare. Togliete la maschera, sotto è un giovane, avrà 25 anni, dalle caratteristiche dell'impero, biondo, pelle chiara. Sta tossendo, fa fatica a parlare, La cosa che vi colpisce di più di tutte è che la ferita dove è stato graffiato è sporca, nel senso che è impregnata di polvere. Che è della polvere, della nube. Ci siete? Benissimo. Sì. Quelle c'è di filigrana metallica, quindi. Sì, diciamo così. Non era dorata. Non metallica nel senso che è tra il bronzo, il metallo, l'oro, boh, un metallo di quel colore. Zafferano. Sì, esatto. E cos'altro stavo dicendo? Niente, fa fatica a parlare, man mano che lo curi riprende un minimo il controllo. E quando la ferita, cioè tu la richiudi la ferita con la magia, no? Ok, questa è Non l'idea. esiste, cioè posso disinfettare la ferita, sono. Dimmi tu come, con la magia non credo tu abbia un modo semplice per farlo. Aspetta, in teoria ho degli unguenti del cazzo, fammi vedere se fanno qualcosa. Non penso. È la mucchina dietro. Allora, ho la pozione che guarisce le ferite, ho un unguento che lenisce il dolore e accelera la cicatrizzazione, panacea. Erbe capaci di guarire qualsiasi malattia. Non so se il tetano sia una malattia. Ci Come metto non un po' so la se te droga. grazie una mano. Tra l'altro, qualsiasi malattia, vabbè. Scusatemi, Adone propone Cosa intanto tagliamo, Giulio? di portarlo. Ah, la magia non serve. Hai ragione. My bad. Perché la gente diceva di andare al medikit, ma se la magia non va. Sì, il punto è che se lo richiudete, la polvere La rimane merda gli dentro. resta dentro. Infatti. Ci vuole un magneta. È arrivato Ivan intanto. Sì. Ci vuole un Da magnete. dietro. Naya si gira La verso faccio di te e dice: in venire. che senso? Ci vuole un grande magnete per fare tutta quella pulviscolo metallico. Ma No. niente. Qualcuno ha un magnete? Naya è tipo boh. No, non ho Qualcuno un cos'è il magnete? magnete. Non. Rick, qualunque cosa succeda, tu menti. Sì, anzi, io Perché ha un stavo proprio per dire magnete? che preso dalla ressa e dalla forza dell'abitudine volevo cercare i cadaveri se avevano qualche roba interessante da Beh, hanno sgrattugnare. una maschera, hanno l'equipaggiamento dell'impero e tutti Neanche loro manapenni, hanno numerosi niente. manapenni, sì. Ecco, io volevo proprio sgraffinare quelli, Lo esatto. fai di nascosto o in maniera palese? Vabbè, c'è Zanzan lì, Laterale. guarda, gli faccio la sgomitata e intanto si tira fuori il coso. Siete miliardari, siete dei morti di fame terribili. Allora, certe abitudini sono difficili da cambiare, voglio Riesce a recuperare 11 manapenni. Anche Zanzan lo fa. Riuscite a Of course, recuperare they uno do. 5 e l'altro 6 manapenni. A voi la scelta. E la giochiamo a carta forbici sasso. Stai dicendo a braccio di ferro, dai, vinci. No, non Giochiamo a braccio di ferro, dai. piano, ho detto carta forbici sasso. Se date a me quello che ho usato nella macchinetta, poi sono 5 a testa. Ha ragione, ha ragione. Vabbè, dai. Io ho dato il colpo finale. Giusto per Guarda Ira dire. che arriva dietro. Io Non sono l'operaio. ha Io sono il comprato morto di cazzo fame, per dire. niente. Iniziamo a litigare sui manapenni da Sì. milionari, però bellissimo, è Ci sono bellissimo. cose più urgenti. Per l'amore di Dio. Comunque, scusatemi, io in tutto questo, Ivan, cos'è che ci ha detto che ha visto sopra? Un cazzo per Non ora. ancora. Niente. Ok, È troppo, è perfetto. preso dai Vabbè, manapenni, mi Naya spiace. nel dubbio cura il porco dio di stronzo perché, cioè, o lo lasci morire così o muori di tetano interno. Quindi dice. Cioè, lo chiede al ragazzo e dice: guarda, posso curarti. Però ho paura che questi detriti e gli indica la polvere che c'è, poi rischiano di restare dentro di te. Rantola, Cosa fa preferisci? fatica a Ok, dottor parlare. House. Fa fatica a parlare. E tra i rantoli sembra di sentire chiudimi. Comunque. Ok, Naya lo richiude. Benissimo. È una cosa un po' traumatica rigenerare la ferita in questo modo. E quindi tra urla e sofferenze il tizio perde i sensi. È svenuto, ma è stabile. Ok. E do una sgomitata al mio compagno di Visa Adventure. Guarda che adesso anche quello è svenuto. Ok, campione della polvere che c'è, che hai descritto prima. Hai detto che c'è della polvere intorno a questa zona dei cadaveri, eccetera. Sì, cosa vuoi fare? Ne prendo un campione. In una boccetta. Ok, come la raccogli? Senza toccarla. Se vuoi, Adone ti dà una mano, prendo un foglio, la raccogli così, poi... Perfetto. Allora, lo fate. Notate che i granelli di questa polvere, diciamo che, a prescindere dal vostro livello di educazione, avete un'idea molto precisa di come funziona la sabbia. Ok? Ci sei? Benissimo. Ora, questa cosa qua si muove in modo strano. Cioè, la sabbia non si muove in modo... liquido? Si muove? In modo estremamente denso. Cioè, come se fosse un fluido viscosissimo, però è... sono granelli. Tipo la sabbia magica. Stavo pensando anch'io. Quella che diventa solida nell'acqua. Tu hai il dito sotto il foglio? Sì. Ok, sembrano muoversi molto più lentamente in prossimità del tuo dito. Ok, appunto mentale. Però, cioè, mettiamo dentro la sabbia e succede qualcosa? No. Qualcuno se lo segna. Adone vuole provare ad avvicinare la mano alla sabbia e vedere se succede qualcosa. Dove? Cioè per terra? Sì, quella che c'è per terra. Ok, quanto vicina alla sabbia la vuoi mettere la manina? Allora... se questa è la sabbia, così. Non vedi nessuna reazione, se non che abbassando la mano muovi dell'aria e quindi un pochino si muove. La sto avvicinando. Ok. Quando sei a... continua ad avvicinarti ai fucking guess, finché non è troppo tardi, perché sei... questo è il tipo di persona che sei. Quando sei a circa 2-3 mm di distanza, senti i granelli che ti picchiettano sulla mano. Ok, la tolgo subito. Ok, non ti rimangono attaccati, però l'hai sentiti, l'hai sentiti proprio come se fossero stati lanciati contro la tua manina. Ok, Adone guarda la mano con la manica, se la pulisce, capisce che non c'è granelli addosso e dice sembra che questa sabbia sia attratta dalla... non saprei dire cosa, dirò da... dalla mia mano, per essere generici. Naya urla agli altri di non toccare la sabbia per alcun motivo. Sì, intanto io stavo cercando di mettere d'accordo tutti sulla quanti manapegna ognuno vada. Però moriate certo. Subito. Rod dice, Naya, ok. Tra l'altro voi due state vedendo... ci sei? Ok, sì, ci sei. Dai, si ricorda di Rod no, e sono bloccato, cosa è successo? Tra l'altro voi due, tu e Naya, vedete dei simpatici simboli. Vabbè. Tracciati dalla sabbia. Vabbè. Ma soprattutto li avete visti all'interno dei meccanismi del immagino. Guarda, non te l'ho nemmeno chiesto perché ho detto sicuramente li ho visti, quindi ma non è nemmeno divertente a sto punto. No. E comunque... Adone si guarda in giro e dice quando è che si... No, è esploso ora, che sfiga. È morto. Cliffhanger. Eh sì. Qualcun altro vuole fare? Stanno Rod e Beatrix. Beatrix io volevo... L'avete provare... sentito? No. Ok. Stai esplodendo. Adone aveva chiesto... No. Niente. Non gli vuole fare fare la domanda. Dimmi te, volevo provare se con un bastone o con quelli morti, cioè la sabbia si avvicina lo stesso. Allora, descrivi per bene l'azione che ti dico cosa succede. C'è un bastone o posso c'è un detrito di legno o qualcosa di ferro che posso prendere, sì. E avvicino quello alla sabbia per vedere se i granelli sono attratti comunque. Vedi, la stessa cosa che hai visto con Adone, solo che, cioè, giustamente, dalla mano lui aveva un feedback tattile, quindi lo vedeva subito. Mentre vedendolo ad occhio è molto più difficile vedere questa cosa, vedere i granellini. Però quando sei praticamente a toccarlo, vedi che in effetti c'è una specie di effetto attraente. Kinetic. Sì. Quindi anche quelle cose inanimate. Sembrerebbe di sì. Scusami, io non Vai. so cosa No, gli hai perché avvicinato. un Un pezzo pezzo di di legno. legno. Ah, ok. E fa la Magari insomma stessa è cosa, legato alla cioè parte naturale. dovreste fare degli esperimenti un po' più estensivi per capire se è uguale di più e di meno. Ok. Fammi loopare che voglio sta canzone in loop. Comunque, Adone Oh sì, questa me la sono vi segnata anch'io, è molto carino. voleva chiedere quando si fossero sbarrate le finestre e la porta. Noi dici A che non chi lo siamo in chiedi? Cioè, coppia. lo chiedi in generale o a qualcuno in particolare? Lo chiedo in generale a tutti quelli lì del gruppo. A risponderti è Batu. Ok. Che Batu, non so se te lo ricordi, non parla la vostra lingua. Ok, Infatti. quindi si esprime male e il concetto che dice è: uomini spariti, ferro su. Qualcuno fatto. Ok, Adone si guarda e dice ok. Cioè, lo vedete un po' unsettled, però dice. Ovviamente, vabbè. A questo punto si gira verso anche gli altri che sono rimasti, tipo Kael, Beatrix, eccetera, e dice: voi avete idea di come uscire? Allora, Beatrix non è esattamente la persona migliore a cui chiedere le cose in questo momento perché sta piangendo. No. Kael, che invece è la più risoluta, forse la persona migliore a cui chiedere in questo momento, che è seduta in un angolo e sta fumando, dice: l'esercito tornerà a prenderci, dategli il tempo di, non lo so, assicurarsi che non ci siano altri pericoli. Ok. Adore non è proprio convinto di sta cosa, però vabbè, se la colla. I personaggi sono unreliable narrators. Esattamente. Ok, Ivan, vuoi raccontare cosa hai visto di sopra, tanto per dare una smossa a sta cosa? Vai. Sì, mi rivolgo a Kayela e le dico: e tu vuoi aspettare qua che l'esercito ci venga a prendere, ci venga a mettere nella stessa situazione di prima? Ok. Al piano di sopra c'è il corridoio e ho visto un tizio salire le scale. Ti chiede Adone. Non ti ho sentito? Scusami, Adone ti guarda e dice: chi è che hai visto salire? Perché noi tecnicamente, cioè, siamo tutti qua. Pensavo anch'io. Stavo salendo le scale, ho visto questo tizio davanti a me. Aveva pantaloni lunghi, scarpe lucide e boh, a robe. Cioè, Adone, cioè, un po' unsettled, once again, dice: forse è meglio salire e indagare? Che io sappia, possiamo soltanto forse uscire cercando qualcosa piano di sopra. Però ci sono delle porte, quindi una di queste porte magari. Tempo di bussare una ad Possiamo. uno. Tanto non è che abbiamo di E meglio da cercare altri fare, quindi. Objective malapenny. Beh, vista là. orientedness. Ok, Batu cerca di farsi capire, dice: io qui Ma io non resto. parlo la. No. No, sei una razza completamente diversa. Lui è mongolo, tu sei Posto, africano. No. posto. Direi Porco di no. Dio. Noi che gli facciamo il segno del noi su e lui ci fa il segno Io dell'ombrello. qui resto. Guardia Vabbè. mostri, voi chiamo se è pericolo. Mi raccomando. Sa quello che è una fighetta direbbe. Non Sei. raccoglie la sfida. E Ok. e Carl coglie la palla al balzo e dice: sì sì, io e il mio amico Batu faremo la guardia, andate voi a guardare di sopra. Legge che è perso. Naya gli chiede se può fidargli il ragazzo che sta... Certo, certo, mi assicurerò che stia bene il ragazzo. Sai che una volta anch'io ero nell'esercito. Naya si gira verso Rod e gli chiede se può tenere d'occhio il ragazzo, mentre non ci sono... In modo che Carl non senta. Ok, e lo vedi che guarda il ragazzo così. Grande. E, lì, e Naya aggiunge... Se succede job. Qualcosa, ti prego chiamami, va bene? Ok. Grandissimo Rod, ti voglio bene. Grande Rod, ti amo. Grandissimo Rod. Se uccida Rod, ucciderò tutti voi e poi me stesso. No. Vabbè, va bene. E quindi andate tutti al piano di sopra. Giusto? Ok, la questione del manapenny è stata risolta. Sì, avete preso avete dato un manapenny a Gideon e ne avete presi quattro teste. Vai. Okay, un passant così. I cadaveri, gli altri tre cadaveri sono cadaveri anonimi, vero? A parte la maschera e l'armatura e i soldi che avete rubato. Sì. Non ci sono segni particolari, nel senso sono anche loro coperti di polvere e sono parzialmente squartati. Vabbè, ed erano parzialmente di metallo, no. Tipo. Cioè, avevano poi dei puntini... Dei puntini metallizzati. Sì, però tipo... Vabbè, non vi dico altro. Okay, non okay. Nessuno di questi cadaveri è riconoscibile, giusto? No. Ok. Cioè, dovreste smascherarli e poi guardarli. Non so se Naya se la sente di fare una roba del genere. Benissimo, non lo faremo. Devin dice: vorrei venire anch'io di sopra. Dai. Io siamo, meglio è. Vi lascio andare avanti, mi limito a seguirvi. Boh, s'accolla. Ok, andate al piano di sopra. Fate le scale. Taran taran taran taran taran taran. Siete al piano di sopra. Due rampe di scale e il corridoio del piano di sopra è come si dice, la ward della degenza, ok? Qualcuno di voi che è di Oclica lo sa meglio, ma praticamente i malati speciali possono passare del tempo in una delle stanze che ci sono qua. I più acuti di voi hanno capito di chi stavo parlando, gli altri no. Bene, andiamo avanti. Al centro del corridoio. Non ho capito dove siamo. Scusami, siete... ti interrompo solo un secondo perché veramente non ho capito. Ci ho provato a googolare. Secondo piano. Non capisco perché l'hai googlato. Secondo piano della cattedrale di Oclica. Ok. Prego. Ha cercato su Google. Lei. No, è che hai detto come una stanza, una ward della. Della degenza. Cioè, praticamente sarebbe la parte dell'ospedale dove ci sono i pazienti VIP. Non ci sono gli ospedali, okay, sono nella cattedrale. Grazie, non lo sapevo. Di dato. C'è la persona. Sì, vi mando la foto. La metto in Fateless come solito. Uh-huh. Allora, non c'ha il monocolo. Chiaramente, l'unica persona con gli occhiali in questo mondo è Kayel. Forse un'altra che ora non stiamo a menzionare. E questa persona, che è perfettamente impassibile, è davanti a una porta e sta guardando nella vostra direzione. Vorrei che... Aspetta, la dico in ordine. Erindor mi fa un roll di arcano. Mm-hmm. Zan mi fa un roll di arcano. Adone mi fa un roll di arcano. Naya mi fa un roll di religione. Gideon mi fa un roll in arcano. Madonna, che strage. E io nulla? No, non hai poteri magici. Percezione. Se vuoi farlo, Gideon, fallo. Credo ma... in te. Meno male che c'è Gideon, cioè. V19. Allora, tu hai tirato arcano. Dico solo quello di Gideon. Hai tutto il tempo di riferirlo agli altri se vuoi. Ok. Questa persona ha una forma di magia attiva sui suoi occhi. È una forma di magia di altissimo livello, per cui non riesci a decifrare che tipo di magia sia. Ok? E mio papà mi fa sapere che hanno fatto gol. L'ha urlato, ci tenevo a condividerlo con voi. E... ok, c'è una forma di magia sugli occhi, non riesci a capire che tipo di magia sia, ma sai che è di livello molto alto. Hai il dubbio se sia una stregoneria o una magia naturale. Cioè, è una cosa un po' ambigua, forse volutamente. Per il resto, sembra essere una persona normale con un potenziale magico. Ok, sì, lo riferisco agli altri. Ok. Naya, hai fatto 11. Guardami negli occhi. You have a bad feeling about this. E basta! No! E basta, non ti dico nient'altro, solo questo. C'è un come si dice, un sonaglino dietro la testa di Naya che sta facendo ding ding ding e basta, solo due volte, fa ding ding ding, basta, fine. Ditemi cosa volete fare, lui è lì che vi sta guardando, vi ha notato ovviamente. Che espressione ha sul volto? Perfettamente impassibile. Ma Zanzan lo saluta. E dammi solo un secondo che devo prendere una roba e poi ti rispondo. Che ho bisogno di averci la scheda davanti prima di fare qualunque cagata. Il personaggio ti uccide. Zanzan muore. Sì, capito, instant. Senza passare per il proverbiale via. E ce l'abbiamo, ok. Guardandoti. Lo saluti dicendo ciao, non facendo un gesto, o entrambi, non ho capito. Lo saluto tipo alzando la manina, sì, cioè... fa sia cenno, verbale che vocale. Fa un cenno con la testa. Ok. Adone, vedendo che gli altri non stanno facendo niente, fa un piccolo passo in avanti e dice... Lei è uno dei pazienti di questa cattedrale? Stando un po' guardingo. La voce dell'uomo non è così virile, diciamo, ok? Ehi? E basta, è l'unica feature che riesce a evincere della sua voce. È un po' tipo leggermente acuta, vabbè. È un tenore. Sì, esatto. È frocio. L'hai detto. Vabbè. E questo di nuovo sto podcast non può andare su YouTube, io vi odio. Che vita sti stenti. Non può andare su YouTube, ma altre piattaforme. Ma altre piattaforme volentieri. No, sono qua per servire una persona che al momento è tra i malati. Io azzardo la principessa. Esatto. Secrets. Sono il suo maggiordomo. Questo ringa una campanellina per quelli di voi che sono in Politics. Mi alzate le manine che è in Politics, ditemi io. Io. Bugiardo. Dai, si parlerà un po' di politica nei miei... Di va gossip, bene, allora. Adone, di gossip. No. Non ci credo. Beh, è gay, con un marito gay. Mamma questo, mia! Questo è uno stereotipo che io mi rifiuto di accettare in campagna. Fanno gossip loro, vabbè, va bene, accetto. Beh, lo accetto. Ci sono... e Gideon lo sa bene, delle voci sul maggiordomo della principessa. È frocio. Lo supplico. Dai su. Un minimo di serietà. Basta, io vi ho detto, ci sono delle voci che riguardano loro due. Sì, esatto. Lei è sposata con il principe dell'impero, nipote dell'imperatore. No, ripeti scusa? La principessa è sposata col principe dell'impero che è il nipote dell'imperatore. Però ci sono delle voci, del gossip, tra lei e il maggiordomo, che per il 90% di voi è la prima volta che ne sentite parlare / che lo vedete. Ah, ok. Zanzan non sa cos'è un maggiordomo, No, esatto, cioè, proprio, figurati. Sì. Naya te lo spiega. te lo sussurro. Quindi ti pagano, come funziona? Sì, esatto. È una persona che ti prende cuori. Piane, c'è una domanda. Vai. Qua in questo corridoio ci sono finestre? No, ci sono solo porte. No, in fondo al corridoio c'è il rosone della cattedrale. Pardon. Ok. Ma lui sta solo facendo da guardia a una porta? Sì. In mezzo al corridoio. Una. No, solo una. Ok. Vabbè, io mi faccio un altro passo in avanti e dico: siamo stati attaccati e credo che sarebbe... No, aspetta, cosa direbbe Adone? Adone dice: siamo stati attaccati al piano inferiore e credo che la principessa sia comunque in pericolo, ma non abbiamo modo di uscire. Tutte le uscite sono state bloccate, sbarrate. Ho capito. Sono certo che nel giro fa finta di guardare da qualche parte. Di un paio di minuti le porte verranno liberate. Potete scendere al piano di sotto e attendere. Quanto onesto sembra. Vuoi fare un roll? Sì. Speravo proprio che me lo chiedeste. Prego. A me sembra una cazza... Cioè, o comunque... Danzan si fida ciecamente. Cioè... Se dice di lanciarsi su un borrone, non lo fa. Allora, io non so quanto siano esperti i vostri personaggi con questo genere di cose, zero, però tutti i parametri biometrici che segnalano che una persona mente sono a posto. Il suo tono di voce è lo stesso con cui vi parlava prima, il suo modo di fare, il suo atteggiamento, i muscoli facciali, è tutto perfettamente come prima. Non c'è nessun segnale che stia mentendo. E allora Adone ha fatto 9 più 3, quindi ha fatto dipende abbassare. È dialetto, è mentire. È mentire sia okay. Per lei sia tu capire esattamente. Sì, check. E allora Adone, vedendo una risposta così specifica, dice: sa che tipo di sortilegio è stato utilizzato per bloccare le uscite? È una cosa della cattedrale? Cioè, scusami, Adone non credo sappia se nella cattedrale... A Naso non crede sia normale, no, però... Cioè, non ti sembra normale, esatto. E lui, di nuovo, in un modo super serio, che a te sembra impossibile che stia mentendo da giudicare dal fatto... Cioè, ti verrebbe voglia di sentirgli il battito cardiaco per vedere se cambia, e avresti la voglia di scommettere sul fatto che non cambia. Questa persona non sta mentendo. Dice... No, credo che sia stata una misura di emergenza dell'esercito. Carne da macello, quindi questa frase la dice un po' più sottovoce. Sì, mi spiace per voi, però penso che temessero qualcosa di più grave di quello che è successo. E invece ve la siete cavata bene, mi pare di capire. Sì, direi. Bravi. Vabbè, io dovrei guardare un attimo gli altri per dire a posto? Io vorrei provare a cercare le altre porte. Si diventa irrequieto se provo magari ad aprire una porta che ho di fianco a me. Di nuovo, in un modo super tranquillo. Non mi interessa, fate quello che volete. L'unica cosa è che non posso permettervi di accedere alla stanza della principessa. Comprensibile. Gli chiedo da quanto è malata la principessa. La condizione della principessa è abbastanza vecchia, tuttavia ha avuto un peggioramento qualche giorno fa. Si sta riprendendo, però abbiamo preferito tenerla in un luogo sicuro per il momento. Di nuovo, tutto quello che sta dicendo lo dice in un modo estremamente sincero. Mi ha tanto sicuro sto posto. Fino a ieri lo era. È stato Zanni. Okay. Stai dicendo che è colpa nostra? Non proprio vostra, ma di chiunque abbia portato quelle creature qui dentro. Le hai già viste? Uguali, non proprio. Dove e quando? Credo di non poterlo rivelare a persone che non fanno parte dell'esercito senza mettermi nei guai. Sei sotto contratto, per caso? Qualcosa del genere. Ok. Fatto sta che credo che ci siano dei libri che ne parlano, se non li hanno già distrutti tutti. Mi sto alla biblioteca. Che genere di libri, chiede Adone? Il genere che puoi trovare in luoghi che non fanno parte dell'impero. Siete familiari con l'idea che non è la prima volta che la centrale ha un problema? Sì. Sì. Forse troverete qualcosa guardando l'ultima volta che è successo. Allora andiamo guardando a chiederlo. Non abbiamo una persona che è letteralmente stata dove l'ultima volta che è successo, scusami. Sì, però anche se il suo è un report biased, nel senso ci sarà da qualche parte un report effettivo dell'incidente, un'indagine, qualcosa così, a cui possiamo accedere in un modo o nell'altro. Se lo stai chiedendo a lui, lui fa spallucce. Se lo stai chiedendo agli altri... Okay. In generale, proprio a tutti. Anzi, partirei dalle informazioni del chi c'è stato. Poi, se riusciamo a trovare il report, è un altro discorso. Quasi sicuramente il decano, direttore dell'università ne sapeva qualcosa. Mi sembra sicuramente voglioso di condividere le sue informazioni. C'è modo e modo di chiedere, I guess. quel modo, ok. Noti un sorriso accennato sul volto del maggiordomo. Naya non riesce a togliersi lo strano sentimento che ha sentito e non riesce a fare molta attenzione a quello che sta dicendo il tizio, ma sta provando tipo a concentrarsi per capire se o l'ha già visto o se c'è qualcosa di specifico che gli dia questa sensazione strana, cioè, perché finora non è che abbia avuto, cioè non gli sono capitate queste situazioni, dice bad vibes. Sì, cioè al massimo era maledetto, bad vibes, not much. O comunque se gli ricorda, non lo so, qualcosa. Stai chiedendo se ti ricorda il mostro del lago? No! Perché non ti ricorda il mostro del lago? No, non sto chiedendo quello. Ok. E no, nella tua vita non hai mai avuto questa stessa identica reazione. Ok. È una cosa un po' generica, diciamo. Mm-hmm. Cioè, non c'è un punto preciso in cui dici, ok, questa cosa... È un po' un vibe. E non va via, cioè, nonostante ci stiamo parlando e, tipo, cioè, sta comunicando come una persona, dovrebbe... E tu hai comunque la sensazione che ci sia qualcosa. E non sai dire cosa. Per paragone, Adone nel chill. Per paragone, Zan, suo migliore amico. Come fai a chiedere una persona se è strana? Le vibes Naya che stai dando sono marce, come cazzo? Guarda, ti ho letto i tuoi occhi e non sono usciti molto belli. Dire come mai? Ma sei gemelli? Scusami. E niente, Naya, mentre gli altri parlano, sta lì a fissarlo e a ponderare come cazzo fare sta cosa. Lui nota che lo stai fissando e da quel momento in poi non ti guarda più, cioè guarda solo gli altri. Bitch. Tanto se Erindor voleva controllare le altre stanze ti descrivo. Io volevo curiosare, infatti stavo proprio per chiedere. Ok, mentre state pensando, facciamo sta cosa qua. Apri una stanza a caso, delle altre, perché sarebbe l'ideale non rompere i coglioni alla gente. Cioè, in generale. No, okay. Sono effettivamente particolari. Sembrano una versione della Mad Bay super raffinata. Hanno dei letti elegantissimi, tipo king size, una cosa molto delle apparecchiature curative di ultimissima generazione, robe anche un po' postmoderne, robe strane, robe sperimentali, e ce n'hanno 3 o 4 in ogni stanza. Ci sono anche apparecchiature, cioè strumentazioni per le cure mediche tradizionali, quindi per cavare il sangue, per fare trasfusioni, ci sono un sacco di strumenti del genere. Però sembrano essere tutti vuoti, cioè non c'è nessuno dentro a nessuna delle altre stanze. Minchia, fate evacuare l'intero piano per la Binge Best, non posso immaginare. Glielo chiedi? No, potevo immagino. E voi vedete che Erindor ha fatto sta cosa di guardare altre stanze e avete un'idea che le stanze sono fatte più o meno così, cioè da fuori. La tentazione di sdraiarmi su un letto king size in questo momento è forte. Be my guest. Ditemi cosa volete fare. Via freak. Non lo so, cioè Adone... Naya si avvicina e... ha notato che comunque adesso stava evitando il suo sguardo. Non è che si avvicina tantissimo, però è tipo... è concentrato. È proprio un... lo fissa confuso e gli chiede... ci stai nascondendo qualcosa di strano? Ti guarda così. È leggermente più basso di te, è tipo 4-5 centimetri, 6 centimetri più basso di te. Ed è tipo... non so di cosa parli. Adone si avvicina un attimo e dice: Naya, credo che non so, Adone, vedi che non sa se utilizzare il termine maggiordomo o meno, però dice: credo che qualsiasi cosa ci... cioè, anche se ci stesse nascondendo qualcosa, sta servendo la principessa. Non mi sembra bizzarro. Naya non dice niente e lo trascini via. Continua a fare il contact. Vabbè, non lo volevo trascinare via, però va bene. Questa cosa a questo punto prende un attimo. Da un'ultima occhiata al signor maggiordomo e poi ti riporta indietro. A questo punto, Adone. Cioè, sai cosa? No, un'altra domanda. Io vorrei andare vicino al rosone più qua. Dal rosone riesco a vedere fuori o è vetro talmente colorato che non vedo niente, lascio stare. Allora, no, il rosone è fatto di un vetro semitrasparente, quindi vedi all'esterno se ti avvicini abbastanza. Però anche questo rosone c'ha delle cose di ferro. Ah, quindi sbarrato. Puoi vedere attraverso gli spiragli, però sì. Il rosone in sé ha l'iconografia della Santa Chiesa, quindi... ok. Un triangolo fondamentalmente con tante icone sacre, cioè un cerchio, okay. Dentro al cerchio un triangolo, intorno e dentro al triangolo icone sacre. Questo boh, lo sai, cioè non c'è bisogno che te lo descrivo. Certo. Devi superare l'uomo e andare dall'altro lato del corridoio. D'accordo, andando, sì, andando a prendere Naya, cioè faccio un cenno al maggiordomo, le oltrepasso per andare verso il rosone. Quindi tu e Naya fate sta cosa qua. Sì. Gli altri cosa vogliono fare intanto prima che descriva? Beh, visto che c'è da aspettare, allora a questo punto io mi sdraio e dico: ah, visto che dobbiamo aspettare, tanto vale che mi godo. Perfetto. Io ciondolando vado verso la stanza magari dove c'è Erindor e do un'occhiata all'equipaggiamento che c'è lì. Più per curiosità, sai, niente. Perfetto. Di nessuna investigazione particolare. Esatto. Ivan e Zan? Ma io chiedo al maggiordomo di descrivermi il suo lavoro alla fine, sono curioso, cioè, che cazzo fa questo? Quello che mi ha detto Manaya non mi torna bene, cioè, per male che c'è Zan. Questo qua è un personaggio fantastico, non l'ho sfruttato ma è un personaggio fantastico. Ora, io cerco di fare lui, e quindi reagisce così. Certo, il lavoro del maggiordomo... in pratica consiste nello svolgere le mansioni che vengono affidate dalla principessa, nel mio caso, o dal nobile di turno, o dal capo della casa. Dipende chi ti assume. Quindi se ti dicono vai a comprare il latte, vai a comprare il latte. Sì. Esatto. Ok, ok. La e pazienza, ti pagano per questo? Nel mio caso specifico è più una questione di vitto, alloggio e di un certo tenore di vita. In generale sì, vengono pagati i maggiordomi. Molto interessante, grazie per la delucidazione. Ti auguro di trovare lavoro nell'ambito che preferisci. Never dream small. Ok, io accompagno... Mirollate, scusate, scusa un secondo. Perché ha detto una roba e mi è venuta in mente. Erindor e Zan, Mirollate un di 10. Poi chiedo a Ivan cosa vuol fare. Anzi, intanto dimmelo, Jin. Ma accompagno allora a Rosona. Ok, quindi ho Ivan, Naya, Adone, a Rosone, Zan che sta parlando col tizio, Damien che è rimasto in un angolo, Erindor e Gideon che sono nella stanza. Ehi, hey, Erindor. L'hai già visto questo tizio? Però te lo sei ricordato un po' dopo, sentendo una delle... sentendo la conversazione che ha avuto col tuo amico Zan. Ok. E quindi, niente, faccio... a proprio quel momento di flash dove mi alzo un attimo dal letto e... ti ricordi quella volta che con Zan siete andate a fare la spesa? Sì, mi ricordo ti molto ricordi bene. Che insieme a una vostra conoscenza... C'era anche un'altra persona? Quella... Zan non l'ha capito. Cioè, se non glielo dici... Beh, adesso Zan è un po' impugnato, però adesso ho avuto la realizzazione. Gideon, tu vedi che questo ha tipo il moment of being. Momentore eureka. Sì. Sono un po' sono un po' orgoglioso di lui, di sicuro avrà avuto un'idea brillante. E arrivo da vicino a cosa della porta e sporgo un attimo per fare double check, per essere sicuro. E poi provo a chiamare appunto Zan Zan, perché comunque, dai, mi sembra ormai compagni d'arme, cioè, ci sta. Vai verso di lui? Oh, no, lo chiamo io, dico, ehi, vieni a vedere questa, vieni a vedere che c'è una cosa fichissima qua. Vado, corro. Ok, siete nella stanza, i tre bros. Gideon, Zan ed Erindor. Gideon sta origliando in maniera proprio sì, io blatant. Sono diventato bros onorario. Sì, esatto. Erindor e Zan, vorrei sentire la conversation. Dimmi. No. Ti ricordi la nostra piccola avventura nell'università, quel golem? Quando vi ha fatto saltare una chiesa. Sì, esatto! Io ovviamente sono orgoglioso delle mie esplosioni. Sì! Ti ricordi che quando l'hanno catturato con quello strano device c'era un'altra persona insieme a Promezia? Sì. Ci assomiglia molto. Ah, te dici... Mi sa che... Non lo so, non me la racconta giusta adesso, come la metti? Vabbè, se è un membro della famiglia... Possiamo chiedere... Io mi sono immaginato Zan Zan, tipo Genty che fa... No, cazzo, bro, c'hai ragione! Inarrivabile. E quindi, forse... Forse un contattino a Promezia bisognerebbe farlo, se magari riusciamo a uscire da qui. Se usciamo vivi, ricordiamocelo. Io alzo il ditino un attimo. Cos'è che avete fatto esplodere? Non in tono accusatorio, un po' ammirato. Cos'è che avete fatto esplodere? No, niente, un sigillo magico ci bloccava una porta e siccome la porta è una ma il muro è tanto, l'ho aggirato in questo modo. E sì, no, poi è saltato per aria anche un campanile, ma quelli non siamo stati noi, ecco. Esatto. Te, immaginati la scena di prima, quella con le monete, però più, insomma, un po' più pensata, ecco, perché insomma non ero nel migliore non ragionavo molto prima, però... Poi sì, boh, c'è un golem gigante di mezzo. Un golem. Io faccio... Sì, Vabbè, sì, no, sì. Era grande il golem, lo ricordo bene. Sì, sì, però era... Io sarei curioso di sentire tutta la storia quando c'è tempo. Guarda, ormai Zanzan immagino che sia alla parlantina, quindi ormai io faccio spallucce. quando usciamo da qua, se usciamo da qua, vi offro da qui. Esatto. Esatto. Mi muovo all'altro gruppo e poi vediamo. Voi tre siete andati a vedere il rosone. Passando davanti al maggiordomo, che non si è presentato tra l'altro, vi guarda male, cioè nel senso gli state passando davanti alla stanza un po' tipo... però poi ve ne andate ovviamente... sì, si calma, sì sì, ok, perfetto, perfetto. E ora è in questa situazione ambigua in cui muove la testa guardando voi di là, poi questi nella stanzetta e poi Devin Corvi che è rimasto dietro. Quindi deve fare tipo... Brutta storia. Lo pagano per fare sta roba. Lavoro. Sì, esatto. Girare la testa 360 gradi. Come hobby fa l'arbitro di tennis. Sì, capito. Di ping pong, ma è alto 4 centimetri. Vabbè, cazzata. È una cagata. Un rosone di merda. Di un bellissimo. Porco. È un rosone normalissimo. Della stessa religione di casa tua. E vedete attraverso le vetrate che fuori c'è una commozione generale. Cioè ci sono tutti i soldati... che erano all'interno e sono stati teletrasportati fuori a quanto pare e si stanno già effettivamente prodigando per cercare un modo di entrare all'interno. La riconosceresti Maria da questa distanza? No. Bene, e allora non ti dico un cazzo, sono d'accordo con te comunque. però sì, hanno tipo... Non la voglio riconoscere. Hanno tipo... No, no, tipo l'armaturona, la maschera e compagnia. Quello ce l'hanno tutti ormai. Cioè, tutti e 100 quelli che c'erano lì di soldati, diciamo, la stessa... Col cazzo outfit. Che capto le vibe di Maria. Fuck you, you are esatto. Enough. Vabbè. Stanno cercando un modo per bucare la porta della cattedrale. Quindi sono stati teletrasportati da qualcun altro? Non si è capito. Il maggiordomo dice che non è stato lui. Ecco, vabbè, abbiamo visto il rosone, possiamo anche tornare indietro. Sì. E mentre torniamo indietro, Naya si gira di nuovo verso il maggiordomo e dice: qui sono Naya Petri, piacere. Il suo nome? Dammi almeno un nome, figlio di Troia. Sapranno tutti. Ok, facciamolo. Lui ti... fa una serie di smorfie. Guarda, sai cosa mi tocca fare? Non ti stringe la mano. Bravo. E ti dice: eroe. Mi chiamano solo Eidos. Eidos. È un piacere. Dai. Buona continuazione. Se ne va. Mi sta sul cazzo. Dai, ha scoperto qualcuno che gli sta sul cazzo. Doveva succedere prima o poi. Sì. Tu non hai idea degli insolenti di questa cosa. Non ancora perché non ha visto che stava derubando il cadavere, quindi per il momento siete su termini neutrali, ma... Prima che vada agli altri, Adone ed Ivan, durante questa interazione... Io guardo questa interazione, sorrido e vado avanti. Mi è venuta un'idea che vorrei fare, ma me la terrò per me e tiro dritto. Vuoi fare every talk? Porco Dio, è vero che c'è anche quella spell di merda, ah, era cazzo. Quella l'idea di merda? Voleva smutandare il maggiordomo. No, vabbè, ci sto già comunicando in un certo senso. Che, non lo so, ho avuto un'idea un po' del cazzo, però... Dimmi, tanto, poi magari non la fai, però ormai sono curioso. Oh, è che ho l'impressione che, tipo, non possa mentire. Che quindi se gli faccio una domanda qualsiasi, cioè... O sta zitto e conferma la cosa che gli chiedo, o mi parla e mi dice la verità, però... Hai il micropede, sì. Il micropede. Proprio un'idea del cazzo. È un'idea del cazzo, quindi io tiro avanti. Ivan? Do I know this guy? Dal gossip forse potresti aver visto qualche giornale con delle foto. Che gossip va? Va che questo è il maggiordomo della principessa e probabilmente c'ha un intrallazzo con lei, secondo il gossip. Fine. Tia non sa nulla di sto tizio. Cioè... Dovresti chiederlo a lei. Non mi ha mai raccontato di sto tizio? Vogliamo fare un roll di storia? Vai. Okay. No. I do not know anything. Non è nemmeno di qua tua moglie. Alzo la testa, alzo le spalle, faccio io. Boh. A me sembra maggiordomo. E vado velocemente all'altro gruppo. Nel mentre nella conversazione ho buttato lì l'idea, ma se ci travestissimo da guardie, io non so come reagirebbero con noi sopravvissuti a questo evento. Sono quattro armature, magari noi tre possiamo. L'idea non mi sconfigge, però sono un po' preoccupato perché se non ci curano questi non si fa una bella fine. Io Eva poi. Non penso che abbiamo le conoscenze per passare come soldati. Neanche tu. Lo so, un'idea stupida. Però non mi fido neanche di quello che ci faranno fare, anche se siamo costretti ad attendere. Quindi dobbiamo trovare... quello assolutamente, nemmeno io. Mi sembra anche molto reale la situazione, chiamala così. Non sembra un inganno. Lo so, però... Insomma, io di finire gli ingranaggi proprio adesso non ci terrei, però allo stesso tempo... Devo staccare quel bel pezzo di pelle che c'è di sotto. C'è stato anche il nostro amico con le corna, che insomma, apparentemente tranquillo, nel senso era una persona normalissima, poi l'hanno ficcato gli hanno ficcato una maschera ed è diventato un servo della centrale, insomma, non è proprio... Salutava sempre. Non è proprio uno dei miei desideri, Direi di no, però potremmo no, vabbè, l'idea è un'idea stupida, me ne rendo conto, però vorrei elaborare un piano, quindi è per quello che sto buttando l'idea. Possiamo travestirci e fingerci malati ugualmente, infetti. Oddio, penso che verremmo polverizzati, però vabbè. Mentre loro tre tornano, cioè volete entrare nella stanza con loro, volete ritornare all'ingresso, cosa volete fare voi tre? Gli altri tre? Naya. Cioè Adone vorrebbe scendere, ma cioè o scendiamo tutti assieme o non scendiamo, quindi cioè vorrebbe scendere tutti assieme. Naya pure. Ne è comunque curioso delle apparecchiature, volevo un attimo buttare un quindi occhio, tu entri in una stanza. Beh, io lo accompagno. Ivan? Vado coi bros. Ok, era inevitabile. Lasciate quindi per un minuto Devin Corby da solo col tizio. Questo esplode adesso. Oddio. Sentite dalle due stanze in cui siete entrati, in cui fate i controlli, guardate, eccetera. Ha fallito lo skip? Adesso va. Cioè adesso sento diverso. Sì, perché mi sa che se fai loop... com'è al loop? Loop nothing. Sì, era la stessa. Datemi un secondo. Ok. Devin si avvicina al tizio. Sentite i passi e sentite che dice: io non credo a niente di quello che hai detto. C'è risposta. No, io credo che la principessa lì dentro sia già morta e che tu stia nascondendo quello che le hai fatto. Faccela vedere. Fatto. farcela, è da solo. Sta usando il plurale maestatis. Dai, cioè, ci crede tantissimo in se stesso. Il maggiordomo non risponde, o meglio, non sentite una risposta. Devin si arrabbia e dice: apri quella cazzo di porta! Oh no, Devin. In questo momento io posso correre verso fuori, sì, dalla stanza per vedere... Anch'io. Quanti di voi? Puntiamo fuori tutti quanti, penso. Ok. Cerchiamo sì, sì, no. Ok, andiamo anche noi. Non fate in tempo a uscire fuori, fate in tempo ad arrivare in un punto della stanza in cui lo vedete. E vedete che Devin ha proprio indicato la stanza, ha avvicinato il braccio alla porta. E l'uomo l'ha afferrato per la collottola. E l'ha tirato in alto. Oh! Lo sta guardando dritto negli occhi, cioè dal basso all'alto, perché lo tiene sollevato, e gli dice: forse è meglio che segui gli altri e te ne vai. Devin, che sta squirming, sta cercando di andarsene, tira fuori l'arma che aveva preparato prima, che l'aveva grandissimo, raccolto, grandissimo, e gliela punta contro. Avete un'azione a testa. Potete scegliere di non fare un cazzo. Allora, Devin è un po' bro, devo dire. Un po' mi sento in colpa. Io... I don't trust il maggiordomo, quindi mi preparo se dovessi castare qualcosa e gli intimo di lasciare Devin e spiegarci cosa sta succedendo sul serio. Ok. Gli lei altri? Si unisce. Ok, fronte comune. Fuck this guy. Io ho una domanda. Con la mia bacchetta o con passione tormentata ho modo di sfondare la porta? È una porta. O di aprirla in qualsiasi modo. Cioè, ho modo di aprire la porta? Dimmi... Experimo sulla porta. Dice, non sarebbe la prima volta. Scusa. No, nel senso, se vuoi provare a incenerire la porta, spari una spell sulla porta o gli tiri un colpo con la bacchetta. Perché non vorrei fare una cosa del genere, però... Dimmi te. No dai, che cazzo, Adone non fa così. Adone tira fuori la bacchetta e se cosa evoca il suo famiglio. Ok, evochi un coniglietto, un bunnuo. Vorrei sapere cosa fanno Ivan e Zan. E anche Erin. Io alla luce degli ultimi delle rivelazioni dico: me ne sto un attimo indietro, che potrebbe essere un nostro alleato. No? Si fa i cazzi suoi. Che fa 100 anni. Sei proprio un verme, madonna. Zan? Zan, per quanto non sia... cioè, la violenza va bene, non è un problema. Però, cioè, che cazzo fate? Cioè, mi hanno lasciato 2 minuti... da soli e questi già mani addosso. Datemi un attimo, almeno che mi scaldo. Ok. Ci sta. Mi manca Ivan e poi l'abbiamo tutti. Ma... boh. Cioè... sì. Io me ne sto in disparto e cioè, me ne sto a guardare, onestamente. Ok. Il maggiordomo, che ha già... cioè, che sta tenendo l'affare in cima. Il vostro la collega spaga in aria la spara Stepping, vi squadra tutti un attimo con uno sguardo molto poco felice, diciamo, e Devin senza esitare gli spara a bruciapelo. Porco Dio. Ok, l'affare spara un raggio di luce, diciamo, tipo una pistola energia magica or something, che ora non stiamo a fare la descrizione. Il maggiordomo sparisce, ok, svanisce nel nulla, lo sparo danneggia il muro, cioè gratta la vernice del muro, mm-hmm, e Devin inizia a scendere per la gravità, mm-hmm. Il maggiordomo riappare e gli tira un pugno in faccia, facendolo atterrare un paio di metri più in là. Il maggiordomo si mette a posto i capelli e dice: forse non sono stato chiaro, non vi farò entrare nella porta. Okay, Adone va un attimo da Devin e lo aiuta a rialzarsi. Sì, è caduto davanti a te. ha un ematoma visibile sul volto. Sta sanguinando, cioè gli ha spaccato il labbro, nonostante il pugno fosse così. E Devin si rialza e dice: non credo di essere forte abbastanza. No, dai, non nemmeno io, Devin. Aspetta un secondo. E a questo punto ho una domanda. Ok, ho una domanda. Ma se io faccio Every Talk, posso provare a parlare telepaticamente o a comunicare con la principessa che è dentro la stanza? Cioè, posso percepire se c'è qualcuno dentro la stanza con cui parlare? Dammi un secondo. Cioè, so che è una cosa un po' tanto specifica, ma qua non c'è scritto un range. Però non c'è nemmeno scritto che devo parlare con questo qualcuno. È un ottimo buco nel mio sistema che verrà fissato. Per il momento vale. Ed è per questo che noi serviamo. Sì, esatto. Esatto. Playtester. Vai, puoi farlo. Ah, me lo lasci fare? Sì, sì. Porco Dio, sì, me la sono tirata fuori dal culo sta roba. Allora, Every Talk funziona che puoi parlare con qualunque cosa. Sì. Solo con entità vive e capace di pensare. Quindi... Allora. Tu non avverti quante entità ci siano. Certo. Tu provi a parlare con qualcuno all'interno della stanza. Esatto. Cosa provi a dire? Cosa provi a comunicare? Sei viva? Sei al sicuro? C'è una lunga pausa. 4-5 secondi. Dopodiché... Okay. Senti una voce femminile che ti dice: ok, per favore vattene. Ok, Adone insiste: sei in pericolo? No, per favore vattene. Nel frattempo, fuori, voi vedete tutti questa cosa, il maggiordomo si sta aggiustando i guanti e dice: volevo essere gentile con voi e abbiamo ancora modo di farlo. Per favore, lasciate il piano di sopra e aspettate davanti alla porta di sotto. Tra poco vi lasceranno uscire. Io e Rick, che lo già conosciamo, abbiamo modo di... Lui non ci ha riconosciuto in teoria. Se l'ha fatto non va detto niente. Esatto, abbiamo modo di fare. Io, se lui non ha sentito niente, io... Personalmente... Abbiamo modo di fargli sapere. Ditemi come. Lui fa lo spacciatissimo, cioè, vuoi dire se c'è un segnale segreto del gruppo? Sì. Sì, sì. C'è. Lo conosciamo? Sì, è praticamente far vedere o gli anelli o le cose della famiglia. Ok. Io lo fermo perché dico... Cioè... Scusami, siamo di fronte a tutti, scusa. C'è ragione. Mi potresti girare un attimo? Ma ce lo dici? Sì. Ma Adone ti guarda male, ma veramente tanto. E... Devin si gira. Devin ha capito. Devin sottomesso ormai. No, la donna vorrebbe chiedere un'ultima cosa alla principessa. E quindi ti giri, perché? Vabbè, sì. Okay. Chiedo solo il maggiordomo. È veramente lui? Il maggiordomo è veramente c'è lui? C'è una pausa più lunga delle altre. E quindi ti rispondo dopo che tutti mi hanno detto se si girano. Ok. Gideon fa spallucce e visto che si fida abbastanza dei bros, e con si fida intende non li considera abbastanza intelligenti per plottare qualcosa di contorto, si gira. Naya e Ivan? Naya vede che tutti si girano e pensa che sta succedendo qualcosa là dietro, e quindi si gira per vedere cosa c'è. Per Naya bastava però io sono completamente in shock da questa cosa. Naya ha completamente ignorato le cose che ha detto Zan. Siamo veramente un gruppo di luminari. Porco. Io in shock che sta succedendo tutto ciò, cioè, incredulo che tutti si stanno girando. Vedi che funzionava. Funzionato benissimo. Ivan, ti giri anche te? Mi giro. Perfetto, che cazzo lo chiedo a fare. Ok, mostrate l'anello. Sì. Ok. Allora, l'uomo cambia leggerissimamente atteggiamento. Si sfrega la fronte. Io mi metto proprio di giro, ma... In virtù del nostro legame, posso chiedervi di uscire dalle scale, aspettare di sotto, in modo che nessuno si debba fare del male? Assicuraci semplicemente che l'esercito non ci farà esattamente quello che si è predisposto di fare, cioè aiutarci. L'esercito farà del suo meglio per aiutarvi, al massimo delle loro possibilità. Nonostante il nostro legame, diciamo, non se sanno niente. Se fosse un problema non sarei qua. Onesto, onesto. Noi stiamo sentendo però, okay. Giusto? Ok. Quindi vuoi dire che toccare di nuovo l'anello non ha niente a che fare col tuo essere qua? Ne potremmo discutere in separata sede. Hai capito, va bene, non serve sudare. E se ne va. Dai, si rigira. Ok, sì. Zan sta già scendendo le scale. Ok. Erindor? Io lo seguo proprio ormai. Cosa devo dire? L'ho vinto. Basta. Io tengo le mani in faccia proprio. Dai, li segue perché vuole fargli delle domande a sti due. Benissimo. Cioè, che cazzo. Adone? Cosa mi ha risposto? Giusto. Dopo una lunghissima pausa, quindi dopo tutta questa interazione... ti dice: non c'è nessun pericolo, ora vattene. Ok, Adone allora guarda, cioè non so che è rimasto, però anche lui se ne va, e se è rimasto qualcuno dice andiamo, scendiamo. Rimangono Gideon, Ivan e Devin. Io sì, scendo anche. Ok, Ivan. Yes. Devin esita. Ma di questa cosa che hanno fatto mi ricorda qualcosa di gente di Oclica? Di questa cosa di cui hanno parlato? Rollami storia. Ma dai! Ma dai! E beh... è quello. Non so un cazzo. Hai fatto un Wuping 5. Forse hai qualche amico a cui chiedere. Al momento però non ti ricordi granché. Ok. Devin, che sta ancora sanguinando, cioè ha il labbro spaccato. Mentre non è che lo state trascinando, però capisce per la peer pressure che deve scendere. Dice: non è finita qui. Io so la verità e verrà a galla. E se ne va. E Adone comunque, quando c'è Kevin, sì, Kevin di Occane. Kevin si avvicina a Devin, dice: ascolta, ho parlato con la principessa, credo. Va bene. Ah, perché ovviamente non possono mentire. Qualsiasi cosa, qualsiasi motivo per cui stia mentendo la principessa, finché io sono vivo, mi va bene così. Beh, che novità. Gente che tradisce l'impero. Riferito a me o al maggiordomo? A te. Io lo guardo alzando un sopracciglio e gli faccio... Sei scemo per caso, Devin? Hai battuto la testa prima? Sì. Sì, ma questo non vuol dire che io non abbia ragione. Andiamo a scoprire. Intanto, mentre ve l'allontanate, c'è il maggiordomo che indica Devin e fa questa cosa qua che mi devo allontanare per farla, perché altrimenti non si vede, tipo... Adesso me lo sto immaginando tipo Giovanni allora, maggiordomo. Lanciaci il cuore, Vianic. Grande conquest. Man mano che scendete le scale, però lo sentite sospirare di sollievo, il maggiordomo. Troia, se gli ha fatto... Come superi le scale di nuovo? Do you? Non mai abbassare la guardia, stronzo. Bene, fai l'ottere sul momento. Naya che fa la bella vicina. Naya corre 100 metri e ti ho calcio per le palle. Vabbè. Immagino che tu stia scherzando. Sì, assolutamente. Hai visto? Sono in grado di vedere anche nel gerundio, oltre che nel passato e nel futuro. Grazie. E... Posso bannarlo un attimo? No, non puoi, perché scopriamo un sacco di roba. Lo so. E... Chiedo scusa. Scendete al piano di sotto. Avete qualche minuto per parlare, prego. Aspetta un secondo, bisogna dei temi appunti. Rod vi sente arrivare e dice: L'ho guardato tutto il tempo. Ah, che bravo. E come sta? Sta ancora respirando? Non ci ho fatto caso, aspetta che controllo. Sì. Grande Rod. No, è proprio... Grazie Rod, molto much appreciated. Posso smettere di guardarlo, non mi piace. Sì, assolutamente. Vado a dare fastidio a Beatrix. Esatto, dov'è Beatrix? No, prima che cominci a darle fastidio a Rod, dov'è? È rannicchiata in un angolo dietro una panchina dentro la recinzione. Bene, io vado da lei, tipo... che avrà finito di piangere, tipo... porco dio, finisce le lacrime, c'è una certa. Sì, però ora è tipo nella fase... Ok. Dell'accettazione, dai, Queen. Io mi avvicino a lei, mi inginocchio, le metto una mano sulla spalla e faccio Beatrix. Team. Ti ricordi della chiacchierata che abbiamo avuto prima? Sì. Tu sai com'è che si toglie questo, quello che abbiamo visto? Devi togliere i tuoi sensi per qualche secondo. L'hai già detto, passo indietro, posso cambiare domanda? Vabbè, comunque. Volevo chiederti com'è che tu e i tuoi allegri compagni di università riuscivate a mettere il sigillo senza maledirvi? Lo tracciavamo con tutte... con 8 rune, poi ne cancellavamo 3, ne cambiavamo una. Adone cosa... Io non ho capito un cazzo! Non l'ho capito neanch'io. Cioè, lo disegnavano, poi lo cancellavano, ma non hai... Glielo state chiedendo? No, io posso fare un roll, perché Adone magari lo capisce. Io sono stupido in culo, non ho capito. Guarda che ti ripeto la stessa cosa, anche se è un roll alto, eh. Penso che implichi che non è attivo se lo disegni e basta. Glielo stai dicendo? Chiedilo, no. Davanti a te. No, Adone Naya non è lì. Naya non è lì, scusa. Adone dice, no, scusa, non ho capito. Devi disegnarlo con... Cioè, noi lo disegnavamo con 8 rune, poi ne cancellavamo 3 e ne cambiavamo una. Allora, il mio cervello ha fatto un po' una connessione, ma al tempo stesso no. Ti do un attimo per pensarci, intanto voglio sapere cosa fanno gli altri. Grazie. Io voglio andare da Ren. Bene, non me ne frega un cazzo, questa è la cosa più interessante della sessione. No, aspetta, mi spiace, prima Rox, che faccio... Mi spiace, no! È più interessante, no! Ren. Merda. Vai. È finita. Ren è rimasta nella stessa identica posizione in cui l'avete lasciata. E le tocco tipo la spalla. Tutto ok? Alza lo sguardo. Non proprio. È per quello che hanno detto, tipo c'hai fame? No, credo di avere tutti i sintomi che hanno elencato. Ma anche qualcuno di questi, probabilmente indico il gruppo enlarge. Non penso c'è da preoccuparsi così tanto. Male che vada si muore. Ride molto allegramente e dice: c'erano tante cose che volevo fare prima della fine. Tipo? Anche solo partire con te. Mi sa che non ne farò nessuna. Dai, vedrai che adesso arriveranno quelli dell'esercito e sicuramente avranno una cura per noi. Speriamo. L'hai tirata tanto così sul morale. Però prima era... Vabbè, niente, non voglio inferire. Andiamo agli altri. Questa cosa è stato il mio pugno nello stomaco serale. Sono contento. Vai, Rox. Adesso mi sembro brutto. Da. Dio cane. C'è Naya che torta verso di te. No, che cazzo sorridi così? Non faccio niente se fai così piani. Scusa. Cioè... Naya tocca un attimo la spalla a Zan e gli chiede se si può, se può venire un attimo da lui, che gli vuole fare qualche domanda. Ecco. E giusto un attimo dove non c'è gente da tutti i lati. Cioè, porco Dio, sì, vabbè. E Naya ti dice che il maggiordomo aveva una vibe, cioè che non gliela raccontava giusta. E dato che comunque lei ha sentito tutto il discorso che avete fatto, perché non è che siete stati esattamente cioè nel senso potevamo anche essere girati quel porco Dio. Naya ti chiede se ha a che fare col lavoro che avevi menzionato per la corona nera. Sì, sa già il nome lei. Tu stai zitto che sei lontano, non senti un cazzo. No, no, ma lo chiedo out of card, sa già il nome. Sì. No, ah. me l'aveva detto la sessione scorsa fra la morte e la distruzione. Naya infatti era tipo, ah, ok, porca Dio. Madonna. Sì, lui è uno dei... Ho avuto un lavoro con lui, assieme a quella che so essere un membro della che mafia. Che tipo di lavoro? Un'estrazione. Ma è vero? Ti ho curato di così io? Sì, sì, eravamo prendere un oggetto e portarlo in un altro posto. Che tipo di oggetto? Mi pare fosse tipo... un occhio di un golem? Mi pare. Master, era l'occhio di un golem. Era il golem intero, però... No, no, ma è meglio, meglio, guarda. Io gioco sulla sua scarsa memoria. Sì, sì, sì. Occhio del golem. Vabbè, sì, era... Non mi ricordo... No, era... c'era stato detto un artefatto, non mi ricordo se era il golem. C'era, avevi il nome scritto. Te lo dico o... Dimmelo, vai. Rick... Secondo te Zan se lo ricorderebbe? No, per niente. Bialik, stai paraculando! Allora, ma già detto occhio del golem. Lasciamo che sia l'unica vera divinità a decidere. Tira un dado. Tira un dado. Dai. Di 10 più mente, che dovrebbe essere più 1. Vabbè. 9, se lo ricorda Rick, mi spiace. L'occhio del golem di Amygdalus. Sai di che ci hai arrivato vicinissimo, porca puttana. Quindi sì, questo tizio com'è che era involved nella cosa? Era una delle persone a cui dovevamo consegnare questo oggetto dopo averlo recuperato. Una delle persone? Sì, stava lavorando con la principessa, con qualcun altro? No, non stava lavorando con la principessa. Di solito la famiglia, la mafia, non mi viene mai il nome. Corona nera. La corona nera, lo gatto. Sa Naya. Sì. Non mi dice molto sui lavori che devo andare a fare, anzi. Meno male, perché... Spesso meno di quello che servirebbe. Tipo, non ci hanno detto che il golem camminava. Naya può cessare l'informazione ed è tipo questo I'm gonna unpack this later. Not ora. Ci sta. Ma quindi voi due siete la centrale per uno di questi vostri lavori? Oh no, eravate alla centrale. Io no, e non sono arrivato insieme a quell'altro. Due punti. No, no, io ero lì per vendetta. Non era un... Achiever. Vendetta, cioè, è diventata vendetta. My bad. C'era una speranza che si è tramutata in vendetta. Speravo di ritrovare una dei componenti della mia tribù, però ho trovato chi li ha ammazzati. Oh, mi dispiace. Quando vai a pescare per trovare il pesce e mangiare la cena e tiri su un portafoglio con 400 euro dentro. Porco Dio. Mi hai distratto questa cosa. Sto pensando di andare a pescare i portafogli adesso. Se vuoi passo agli altri. Ti do vai, passo agli altri. Erindo, Rivan, Gideon e Devin. Voglio chiederti, le armature che indossano sono di tipo metallico? Sono di una lega metallica di qualche tipo? Allora, no, le armature sono armature imbottite, quindi di stoffa, con dei dettagli in metallo, quindi tipo i bottoni sono in metallo, le spalline hanno una placchetta in metallo dentro e così via. No, era perché appunto, visto che sono mancante di scorte, dobbiamo attendere, io voglio trasformare in monetine qualcosa. Ok, hai... Gold. Sì, nel senso, puoi distruggere, rovinare un'armatura per farlo. Se... Perfetto, evviva! Io ho una domanda off character. Poteva farlo con le barre di metallo che ci chiudevano dentro? Ci sono ancora. Sì, ma dura un'ora il processo, cioè... Sì, non è che posso stare lì un'ora mentre quello mi ammazza, scusami. No, quelle per uscire dalla... Cioè, per uscire quelle dalla davanti chiesa. Alla porta, dice. Quelle davanti alla porta per l'uscita principale. Tra l'altro... Eh sì, ma diventano... Però ha un limite di peso, no? È pari alla mia cosa. Sì, no, nel senso ne faresti una sezione. Però vi hanno detto che le rimuoveranno entro poco. Sì, questi continuano a dire poco, ma... vabbè. Continuano a essere chiusi dentro. Sono quasi... è quasi mezzanotte. Vabbè, io non ho pensato a questa cosa, quindi non... Sì, va bene. Allora, se lo fai su loro, sulle armature, e ti... cioè, entra la polizia, l'esercito, mentre lo stai facendo, secondo me non ci fai proprio una bella figura, però... vabbè, un uomo bisogna scommettere. Uno ci prova, ok. Erindor ce lo siamo giocato così. Esatto. Vorrei, mi mancano Gideon ed Ivan. Ah, va prima Ivan. Vai. No, va prima Gideon. Ok, io chiedo a Devin perché pensava che la principessa fosse già morta e che il maggiordomo stesse mentendo. Lui si sta pulendo il sangue che gli continua a uscire e dice: le hai letti i giornali? Sì. Parlavano del fatto che hanno portato qui la principessa. Ed era chiaramente una notizia inventata per nascondere i fatti della centrale. Non serve un genio per arrivarci, altrimenti non l'avrebbero messa in prima pagina. Secondo me la principessa o non è mai esistita, o ancora più probabilmente l'hanno uccisa per fare qualche rituale satanico o roba del genere. Rimugino. Devin continua il suo flusso di pensieri e dice: tu non sai tutto quello che avviene alla centrale. Io invece ne ho un'idea più precisa. E questo genere di cose, secondo me, è quello che la alimenta, la centrale. Lui non sa che tu hai visto il nucleo, en passant. E quindi sta facendo il suo coso. E quindi, secondo me, la centrale è alimentata da qualche roba del genere. Qualche sacrificio di qualche genere. Non è la prima volta che un nobile, che un membro dell'impero, della famiglia imperiale, viene... fatto sparire in concomitanza di un evento del genere. 43 anni fa è successa la stessa cosa. Un altro membro della famiglia è misteriosamente sparito quando la centrale ha avuto problemi. Un cappello di alluminio si manifesta dal nulla sopra la testa. Scusate, non è successo. Era nella mia testa. Lo vedono solo Naya e Adone. Gideon. Oh no! Smettila! Scusa, Gideon, se non vuoi rispondere ad altro, vado ad Ivan. No, no, io sono a posto così. Ok, Ivan. Puoi anche non far niente, cioè... posso non fare nulla, cioè... Sì, sì. Cioè, dimmi tu. Non ho nulla da investigare. Benissimo. Da fare. Take into the void. Ci sono tante panchine su cui sedersi. E... Chi era stato mi il primo? Mi siedo di nuovo sulla panchina pensando... Pensando? Alle bugie che ho detto a Thea. È l'unico modo di vivere la vita. Sì. Noi comunque la discussione di Devin e Gideon l'abbiamo sentita, stiamo chiacchierando. Sì. Sì, Devin non si fa problemi a parlare ad alta voce. King. E, comunque, Naya continua le domande che sta, cioè, sta facendo tipo il terzo grado a Zan, ma non in modo cattivo, è proprio più un... Zan può vedere negli occhi di Naya che il tizio di prima gli stava antipatico e sta cercando di capire perché porco Dio sto qui gli sta antipatico. E è anche curioso di tutte le cose che gli sta dicendo Zan, quindi un po' continua a fargli domande. E gli chiede se il maggiordomo fosse il ricevente o se avesse richiesto lui questo artefatto o se sa qualcosa del motivo per cui gli è stato chiesto. Non so niente del motivo, so che loro erano le persone che hanno ottenuto questo oggetto. Alla fine della fiera. Nel senso che loro ci hanno richiesto di prenderlo e noi glielo abbiamo portato. Io e quello là, Erindor, vedi, quello, lui. Quello che sta armeggiando intorno ai cadaveri. Esatto. Naya lo vede e fa proprio la faccia, cambia i connotati genetici di Naya e fa una faccia disgustata per la prima volta in tutta la sua esistenza. Forse la seconda, poi. Grande Maria. Si vede in sovrimpressione il meno di The Sims sopra la testa di Naya quando vede Erindor raccattare i cadaveri. E Naya chiede, in che senso loro? Il maggiordomo è chi? Il maggiordomo è il mio contatto solito con loro. È una persona che se vuoi ti posso presentare dopo. No, non so se voglio avere a che fare con questo. Di solito organizza... È l'organizzatrice dei colpi, delle cose. Non è un... Non è un quello che fa il mio lavoro alla fine della fiera, ecco. Naya è tipo, ok, chi cazzo se ne frega? Cioè, nel senso, ok, però non è il punto della mia... Io quando non voglio sapere la verità. È così difficile. No, però non è il punto, quindi non posso neanche... E Naya ti dice che... Erindor aveva menzionato un sigillo e ti chiede se lo sai ridisegnare. No. No, l'ho visto solo parzialmente e la mia memoria non è così buona. Ne sono passate di famiglie sotto i ponti. E questo si... Wow. Cosa? Cosa vuol dire? Era un gioco tra me e lui, è fucking... Tra il master, tra le voci nella testa di Zanzan e Zanzan. Sì. E lei ti dice... Questa è la cosa... Cosa significa? No, la famiglia, vedi, e apre il sacchettino con dentro la droga. È un sacchettino di cristalli azzurri sgranulati. Mi ricordano qualcosa. Non così tanto come credi. Ok, perfetto. Ne vuoi uno? No, grazie, no. Your loss, I guess. Your loss! E me ne c'è di più per te, dai. Se cercare un altro va in Berserk, eh? Non sono passate 2 ore. Era un'ora, era non 2, fai comunque. Quest'ultima battuta sulla famiglia l'ha confuso e niente, basta. Ti ringrazia e va verso Beatrix e Rod, porco Dio. Ok, allora riprendiamo da Adone. Godalaus. Zanzan, puoi accollarti, se vuoi, puoi fare quello che ti pare, puoi andare da Ren, puoi fare quello che vuoi. Ah, vado da Ren e cerco di darle anche a lei della droga. Lei accetta, però. Cioè, lei ormai non ne può più. Se non c'è un momento nella tua vita in cui dovresti accettare, sì, è quello. Esatto. Cioè, è una persona razionale, comunque. E quindi loro due si stanno divertendo più di noi. E, sì. Sicuramente. Eddie, ci sei? No. Ah. Io ho sentito no. Io ho sentito però, diciamo... il suono dei villagers di Minecraft. No. Ah, ok, no. Ok. Non ti sentivo. Avete... Cioè, io avevo altre cose da chiedere. Ok, ok, vai. È il momento, sì. No, cioè, non ho capito cosa intende lei, quindi chiedo se me lo rispiega, cioè, tipo, cioè nel momento in cui disegnavate tutti gli otto, le otto rune, gli otto simboli, non si attivava automaticamente il sigillo? No, il sigillo ne ha 5 di simboli. What? Cioè, proprio l'autore dice cosa? Non lo stavi per tracciare a memoria? Non ce l'hai impresso nella mente? Sì. È con 5 simboli. No. Ne ho 8. Lei ti guarda e... è tipo... 5. No, ne ho 8 di simboli, sono certo. Guarda Rodvold e Rodvold è tipo... non le sa... No, vedi Catone lì sorride e dice no, scusa, no. In che senso? Vuoi dire che non hai idea del simbolo che ho visto? No, hai tracciato il sigillo. 3 lune, la croce... Sì, esatto, esatto. Ok, all'esterno ha 8 rune. Cioè... Esatto. Ma poi ne devi cancellare 3... e modificare una per arrivare al simbolo vero. Il simbolo che ho impresso io nella memoria li ha disegnati tutti 8. È la prima volta che sento questa cosa. Scusa, e... il nome che leggi sulle rune qual è? Pronti? Adone dice... Scusa un secondo che me lo tiro fuori, ma... al buco del culo. No, lo so, lo so bene, ma visto che ho paura di sbagliare a dire una lettera, lo rileggo, così non facciamo cazzate. Braxaras. Ti guarda come se avessi appena scorreggiato. Vabbè, No? Sarà un nome diverso, sarà un... Sì, non è quello. Vabbè, Adone adesso sta per impazzire, dice, vabbè, ok, metti che sono stati fatti 8 simboli, un nome diverso, ok, il principio è lo stesso, giusto? La vedi completamente blank. Sei riuscito a fare dimenticare che sta per morire. Perfetto, benissimo, sono contentissimo, volevo questo. Mi giro verso Rodvolt. È piccolo. Che cazzo vuol dire piccolo? Lavoro in centrale? Tipo... They are tiny. Gli vuoi dire qualcosa? Sentite, avete un modo veloce per farmi perdere tutti i sensi? Cura e poi curarmi e così ho risolto questa storia? Sì. Vai. Ok. Ti prende la testa, cioè, devi abbassarti. Va bene, farà male? Intanto si abbassa Adone. A me non farà male. Vabbè, Adone dice va bene, dai, ce la facciamo, pronti. Ti mette i pollici sugli occhi, chiusi. Dio cane, sì. E senti un leggerissimo tepore sugli occhi e sul resto della testa. E okay. Hai una sensazione che non hai mai avuto in vita tua. Ovvero, come okay. Se avessero staccato la spina alla tua console. Porco Dio. Per 2 lunghissimi secondi è come se fossi morto. Hai proprio quella Cristo. Bellissima sensazione di... Oh no, c'è niente. L'oblio, il niente, il vuoto, il nulla. Mamma mia. Dura 2 secondi, durante il quale hai le fottutissime allucinazioni. Quindi questa cosa per te dura dei giorni, ok? Dei giorni in cui hai delle visioni di cose, di cerchi, di simboli, di robe arcane. Bello. E poi molla, apri gli occhi, okay. E non hai più niente. Ah, fatto. Ah, ottimo. E allora per prova, Adone prova a tracciare il simbolo. Non ti ricordi come è fatto? Non mi ricordo come è fatto? No, cioè fai un cerchio, perché fin lì ci sei. Non lo fai perfetto, sì, sì. Lo fai male. Ah, vabbè. E poi andando avanti, tutti gli altri simboli te li ricordi, ma non nella posizione giusta, non nel modo perfetto, giusto come era prima. E sono tutti storti, cioè con la capacità di disegno che c'ha Adone. Che non è una cazzo di macchina. No, no, no. Naya, Naya, vuoi farlo anche tu? Naya arriva e ha visto sta scena e fa, ed è tipo... Ciao! Cosa sta succedendo? L'ho guarito. Sì, mi ha guarito dalle visioni. E ti guarda un po'... Bea lo tiene fermo e dice... Il simbolo... Quante rune ha? 8. Puoi dirmi che rune sono? Può. Dimmelo te. Sì. E dici lo stesso nome che ha detto quell'altro fenomeno, è fucking guess. E non lo so, cioè nel senso non... Te l'avevo detto comunque. Il nome... Sì, il nome sì, però dico le rune non... Cioè le sa decifrare singolarmente, sa fare qualcosa di sta roba. Allora lei ti chiede, ma di preciso, dove l'avete visto il simbolo? Sapevo. A dove ti sta guardando? Naya? E Naya è tipo... devo dirtelo per forza. Ti sto preferirei non farlo. Ok. È un posto in cui non dovevamo essere. Credo. Ok. Guariscilo pure, Rod. E Rod, tutto bello, allegro e contento. Va bene. Vieni giù, Naya, sei troppo alto. Vieni giù. Naya, prima che lo faccia, sussurra Beatrix dove ha visto il sigillo. Puoi o scrivermi o dirmi che cosa le dici di preciso? Ok. Teatro Rox, l'avrei fatto subito dopo con Adone, quindi... È così difficile, dai. Scusate, abbiamo quasi finito. Sì, dopo no, esatto. Un'ultima sì. Roba, a meno che non vogliate fare niente voi. Immagino lo fai in modo che Rod non possa sentire. Sì, che è l'unica che sente quello che sto dicendo. Tra l'altro bello è l'ultimo messaggio che mi hai scritto. E vabbè, intanto che me lo scrivi, che mi sa che qua facciamo il cliffhanger così. Ivan continua a pensare agli errori della sua vita. Gideon non parla più con nessuno, cioè ha finito? Sì, rimugina. Ok. Zan di nuovo si sta drogando, quindi... Chi meglio di lui? Erendor sta cercando di fare degli atti impuri. Te l'ho scritto nel modo migliore in cui riesco a scrivertelo in fretta. Sì. Vedi che diventa molto pallida. Ti mette la mano sulla spalla. Ed è lei a dire la parola che mi hai scritto e ti chiede ma il nucleo? In quel momento Beatrix diventa pallidissima, proprio Snow White, e cade all'indietro. Posso prenderla prima che cade e sbatta la testa? Nello stesso momento le sbarre su tutta la centrale tutta la cattedrale si ritirano, come vi aveva predetto. Le porte si aprono fragorosamente ed entrano numerose guardie armate, puntando ovunque, urlando, dicendo tutti fermi, nessuno si muova, dov'è il mostro? E la sessione finisce così. Mamma mia. Così la prossima volta dovete interagire con le guardie, pensa che bello. Io ho solo una domanda. Vai. Il coniglio famiglio che candiadona ogni volta sì. che viene summoned è sempre lo stesso coniglio o è uno nuovo? Sì, sì, è in verità sempre lo stesso coniglio e te lo descrivo un pochino. È un coniglietto, guarda, anzi sai cosa? Ho una visual reference, se mi date un secondo ve la mando. Vai. Perché il mio pensiero è, questo povero coniglio, i suoi unici momenti di vita sono durante queste battaglie. It's a Severed Bunny. Severed Bunny. Severed Bunny. No, allora, in verità lui l'ha evocato prima e c'è ancora il Bluey sì, con c'è, noi. C'è il numero 2. Esatto. Ok. E l'avevo anche evocato quando ero arrivata alla centrale, quindi in verità cioè lo evoco veramente perché è mio famiglio, non perché... Okay. Ah sì, carne da macello. Fa perché... anche cose carine nel tempo libero. Sì, sì. Esatto, e ve lo mando su Telegram. Okay. Quindi il famiglio si ricorda ogni volta che è morto? Ma io credo che sia più un costrutto. Okay, sì, okay. Raga, c'è un costrutto, non è un vero famiglio come potreste pensare, cioè è roba... Ed ma è bianchetto. No, l'ha fatto Sara. Mm-hmm. Wow. Però sì. Siete contenti di essere riusciti a uccidere due NPC per ora? Sì. Due? Sì. Infatti. Non ti era chiaro, Rox? Aspetta, sto cercando di... Sì, no, io l'avevo capito. Amo è appena ucciso Beatrix. Non se ne era accorta? No, per niente. La Rox! No! Vabbè. Rox. Sì. Beh, ragazzi, alla prossima settimana. Eh sì, tocca. Oh mio Dio. Chi vuole andare via vada, cioè abbiamo finito. Oh no! Ok. Rox. Esatto. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Rox. Oh no! Io e Nai due gemelli! Cosa gemelli? Io e Nai ha due gemelli, nel senso che, cioè... Entrambi avete ammazzato qualcuno accidentalmente. No, nel senso che... Oh Dio! È Dio! Grim! Nel senso che non mi sono resa conto, cioè che l'ho fatto senza... Cioè... Beatrix Lankig, uccisa da Nai il 2 ottobre. This action will have so many consequences. Oh no. Amo. No, però fai il blame sul mostro. Fermo. Questo conferma che... Ma non ha detto niente, cioè... Ma conferma che noi... Cosa vuol dire? No, dai, c'era questa cosa. Cosa vuol dire? Non so tu cosa abbia detto a lei. No, però... sono cose che tu sai, che io non so, sicuramente non so un cazzo, perché io so che se hai il contratto non puoi dire le cose. Mm-hmm. Ma allora vuol dire che... Cioè, lei ha detto solo il nucleo, giusto? Sì. Però vuol dire che cose che... Allora, per come funziona, la mia idea è, tu non so adesso cosa l'hai detto, l'hai detto qualcosa che abbiamo avuto comunque esperienza noi. Le ho detto che abbiamo visto una stanza dove all'interno della centrale era tutto buio e c'era una persona mummificata appesa che teneva questo simbolo. E ho scritto poi, non dice nucleo! E Piani ci ha detto. Ma vuol dire che lei ha rivelato perché tecnicamente noi non dovremmo, cioè, se tu riveli informazioni a qualcuno che già sa... Aspetta. Se tu, che hai firmato il contratto, riveli informazioni, appunto, sensibili, qualcuno che già sa, non stai rompendo il contratto, perché già sa. Ma vuol dire, okay, a questo punto, che noi forse, per qualche conundrum strano, o non eravamo nel nucleo quando è successa quella roba lì, ma non è vero, quindi questa cosa la scartiamo, oppure... Funzionano con una magia di merda come la mia. Vabbè,